propongo che ci siano anche dei bordelli, come vengono chiamati, per le donne. Perché noi donne, ci sono delle donne che hanno delle esigenze come degli uomini, perché noi donne no e loro sì? La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Entro in un bagno di un bar della mia città. Mi avvicino normalmente a pisciare nel water. Dopo averlo fatto, mi avvicino al lavandino per lavarmi le mani. Rimango sbalordito. Sullo specchio c'era un cartello con su scritto: "Non date retta a Crugiani. Siamo veramente al top." Ah, questo non sarà vero però, questo è un racconto finto, credo sia un racconto finto. Come sei arrivato al massimo tu ormai? Perché ci sono persone che ambiscono ad essere citati, che sono nei libri di testo, nei libri di storia del giornalismo, nei cessi. Secondo me se di più non puoi, cioè più di questo. Però meglio essere citati nei cessi che nei libri di scuola, secondo me. Meglio essere citati nei cessi. Dipende dalle aspettative che ognuno di noi ha. Dipende perché cosa sei citato nei libri di scuola. Certo, questo è pure vero. Essere citato come Hitler non è, sì, effettivamente non è una bella citazione. Allora ragazzi, vi faccio subito un paragone per dirvi, noi non ce l'abbiamo con i 5 Stelle, per carità, guardiamo le cose come stanno e le cose come stanno spesso vengono illuminate dai numeri, no? Illuminate dai numeri. Allora, intanto tu continui a tirarti il naso come se niente fosse. Allora, amministrazione di Roma, Milano e Torino. Aspetta, amministrazione di Roma, Milano e Torino. Delibere fatte di giunta sono state lette contemporaneamente. Delibere fatte dalle rispettive giunte finora. Milano 397. Milano. E vabbè, non è che la quantità di delibere significa che tutte quante vanno bene o comunque va bene farne 400 o 500, non è detto. Comunque Milano 397, Torino 200, Roma 39. Roma 39. Di queste 39, 23 per nomine e poltrone, 23 per nomine e poltrone. Poi uno dice che a Roma stanno lavorando, sicuramente staranno lavorando, sicuramente faranno delle cose meravigliose, per carità. Finora la situazione è questa: 397, 239, di questi 39, 23 sono per nomine e per poltrone. E non riescono ancora a trovare un assessore al bilancio. Signor Tutino, sbeffeggiato tempo fa da Di Battista e altri perché era parte della casta, della burocrazia, perché era stato nominato dal Partito Democratico alla Corte dei Conti o comunque dal governo alla Corte dei Conti in beffa alle norme sul tetto degli stipendi, scelto dalla Raggi, ha detto: no ragazzi, io non voglio fare qui il capro espiatorio di lotte interne. I 5 Stelle devono valutare non tanto il curriculum, che mi pare che non interessa a nessuno, nella misura in cui vale l'equazione 1 uguale a 1, no? Ma all'esterno se ne sono, tra virgolette, sbattuti, insomma. Allora interessava, come dire, venire un capo espiatorio, no? Di un conflitto che era evidentissimo. Se voi giornalista avete visto tutto, no? Vabbè. E io mi dico, ma che cazzo ci vuole a fare un assessore al bilancio di un comune? Cioè, le altre giunte, sì, scegliete il suo assessore al bilancio, no? Prendete uno qualsiasi. Ma non è, vero? È facile, non è facile. Ma che non è facile? Che sono incompetenti allora? Sono dilaniati da lotte interne. Ma dai, chi lo vuole su fare l'assessore al bilancio di un comune completamente che non ha un becco di un quattrino? Attenzione, Renzi annuncia che si farà il ponte sullo stretto, eh? Attenzione. Che è quella di completare il grande progetto di quella che Del Rio chiama la Napoli-Palermo per non chiamare ponte sullo stretto, ma che è di fatto il collegamento tra Napoli e Palermo in un'operazione che porti non soltanto posti di lavoro, come è sacrosanto, 100.000 posti di lavoro, ma che sia utile. Poi alcuni dicono che si può fare in 6 anni, io ovviamente, essendo stato a lungo partigiano del ponte, dico che ormai non si può più fare. Cioè, c'è poco da fare, non si può più fare un cazzo. Dopo anni e anni di indecisione non si può più fare nulla. Per cui è inutile ribadire adesso si fa il ponte. C'è tutto un contenzioso legale con la ditta che vinse l'appalto, un casino pazzesco. Renzi è già in clima referendum, raddoppiamo la quattordicesima. Tutto, ti viene anche a casa a fare le pulizie di Pasqua. Raddoppiamo la quattordicesima, sì, alle minime, alle pensioni minime. Mica male. Dai, su, ma come cazzo si fa, ragazzi, su. Noi oggi alle minime, già adesso, per quelli che arrivano, mi pare, a 750 euro. Che sono già buoni. Che sono quelli che hanno. Ci sono quelli da 500 euro. No, fino a quelli che arrivano fino a. Ah, fino a, scusa, fino non ho capito. A questi, a tutti questi, gli viene dato una cosiddetta quattordicesima. A questi noi raddoppiamo la quattordicesima. A me invece non me... Renzi farà di tutto pur di vincere il referendum, ovviamente, e prometterà, come dice Parenzo, probabilmente andrà nelle case italiane a promettere qualsiasi cosa. Però le polemiche intorno alla data le considero francamente un po' ridicole. Cioè, adesso che si voti, è vero che probabilmente conviene al governo aspettare ancora un altro po', quello che volete, ma quando si vota, si vota. Se non mi venissero a dire che fa più freddo, c'è la coincidenza con le elezioni in Austria, chi se ne frega. Cioè, si vota e quando si vota, si vota. Non è che sono sullo stesso piano, il sì e il no, quando si vota sono sullo stesso piano. Cioè, francamente, le dà la polemica. E poi è normale che un governo scelga una data a lui favorevole. Ma quello mi sembra normale. Quando in Inghilterra il premier indice le elezioni, cerca di farlo in un momento che secondo lui è più favorevole alla maggioranza. Cioè, più o meno è quello. È vero anche un'altra cosa, che Renzi aveva detto nell'ordine: il referendum si fa a ottobre e invece si fa a dicembre. Aveva detto che l'Italicum è la legge elettorale più bella del mondo e invece la vuole modificare. Insomma, no, poi alla fine cambia idea ogni tre secondi pure lui, In continuazione. Librandi, andare in pensione fa male. Non manca mai Librandi. Ma perché devono andare in pensione? Siete lì belli, freschi e giovanili. Non sapete che andare in pensione fa male? Andare in pensione. Sentiamo a Genova se pensano di essere freschi e giovanili. Librandi, andare in pensione fa male. Allora, ragazzi, Giarrusso, il mitologico Giarrusso, senatore 5 Stelle, portavoce 5 Stelle, Giarrusso, cittadino Giarrusso, è stato querelato da Alfano perché ha detto che Alfano è il ministro della malavita. Senti. L'Italia di Renzi e del PD è quel paese in cui un ministro dell'interno, l'avete saputo, è riuscito a presentarsi in pompa magna all'inaugurazione di un ristorante sequestrato l'altro giorno dalla procura perché era dei mafiosi all'inaugurazione, pensate, o Alfano non sapeva dove andava e quindi siamo in grave pericolo, oppure Alfano sapeva benissimo dove stava andando ed è ancora più grave perché sarebbe il ministro della malavita. In tribunale Giarrusso gli è un po' partita la frizione, diciamo. Sì, però ha detto anche se avesse saputo, è un po' partita la frizione, avesse saputo, dai, che andava in un posto di mafiosi è il ministro della malavita, cioè è tutto al condizionale. Adesso, dai, a me perderà, è simpatico molto Giarrusso, in tribunale però. perderà è ingiustificato, totalmente Rondolino ingiustificato. Contro Imposimato. Senti, com'è il quesito? È neutro? Il quesito è truffaldino, questo meccanismo che serve a imbrogliare. Però, cioè, mi scusi, ma i quesiti non hanno superato il vaglio della Cassazione? Eh. E secondo me la Cassazione è sbagliata, perché non doveva, ma non è che come non doveva, adesso è stato prorogato, è stato prorogato qualche magistrato in Cassazione perché è stato. Il mio dubbio truce, lo devo dire. Lei sta dicendo una cosa che non è vera. Sta parlando di una cosa che o non conosce. Ma che cosa? Ma io ce l'ho qui quesiti. Il titolo della legge è stato votato 6 volte dal Parlamento della Repubblica. È stato votato da un Parlamento illegittimo. Eppure illegittimo il Parlamento. 25% l'opposizione, i pubblici ministeri. Non si poteva fare. I carabinieri. Guarda, io avevo fatto un passetto avanti e portavo solo i quesiti. Allora, io non mi interesso delle cose che riguardano il Grande Fratello VIP, Parenzo. Non so se tu guardi il Grande Fratello VIP. No, assolutamente no. No, assolutamente, ma non è mica un delitto guardare il Grande Fratello VIP. No, io non lo guardo perché mi rompo i coglioni. Io mi rompo i coglioni. Ma no, ma io mi rompo i coglioni proprio a guardare. Stasera guarderò ogni tanto di martedì. Ogni tanto dei frammenti guardo. Ogni tanto dei piccoli frammenti, perché va bene, è un programma. Ieri notte ho visto ad esempio un pezzo, perché poi mi sono addormentato, di Trump e Hillary. No, ma adesso poi ne parliamo. No, subito il capo del Ku Klux Klan tifa Trump, senti questa cosa qua, il capo del Ku Klux Klan ha detto viva Radio Padania anche, no, mi pare, senti, no? Senti, come no? Senti che cosa dice, ovviamente tradotto in italiano. Sì. I poteri forti ebraici, i loro grandi banchieri, sono tutti a favore di Hillary Clinton, perché è una schiava di Israele che continuerà a fare la guerra al Medio Oriente. I poteri forti ebraici. Vabbè, il Ku Klux Klan, appunto, non è che... Hai detto insomma, i signori del Ku Klux Klan. Ma dovrebbero arrestare tutti, sono gli Stati Uniti. No, ma che sei matto? Ku Klux Klan va arrestato, che sei impazzito. Libertà di essere anche razzisti. Cioè, la libertà di essere anche razzisti. Questa è una libertà... No, ma io sono ovviamente contro il razzismo e mi fa schifo, ma sono assolutamente a favore della libertà di essere razzisti. Cioè, ci dovrebbe essere anche un Ku Klux Klan italiano. Ma forse c'è già. Forse c'è già. Occorre auspicarlo. Esiste c'è già Pellegrini è il capo del Ku Klux Klan italiano. Ma gli ha dato la tessera. Anzi, quelli del Ku Klux Klan americano, a un certo punto, ci sono anni. What is the Radio Padania? Oh, ma they are racist. Cioè, praticamente, quelli del Ku Klux Klan hanno detto che Radio Padania è razzista. Loro hanno detto, ma come? Ma noi non diciamo queste corbellerie. Ah, non le diciamo? Perché allora sintonizza. E si sono sintonizzati con Radio Padania. Sentono ogni giorno che loro dicono, cazzo, ma questi sono razzisti veri. Cioè, quelli del Ku Klux Klan. Quelli del Ku Klux Klan dicono, cazzo, questi sono razzisti veri in inglese. Oh, they are racist, really racist. Tutto il giorno viaggiare con Cruciani alla radio da ascoltare, anche se col traffico mi sento male, ho Parenzo da mandare a cagare. Tutto il giorno viaggiare. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta La Zanzara. E intanto è tornato Don Giorgio De Capitani, sentite. Non c'è più scampo, che il Tevere allora inondi la città, la spazzi via, lasciando però qualche rudere a perenne ricordo per le future generazioni. Il Tevere deve spazzare via Roma, Don Giorgio ormai impazzito, eh? Ma non è che Roma sia maledetta? Proprio perché è confinante con il Vaticano? Sembra che il Tevere non divida nettamente il sacro dal profano, ma sia il canale del maligno che porta solo disgrazie. Un canale inquinato da un covo di ladri, di farabutti, di ministri di un Dio che puzza di soldi. Questo è pazzo. Don Giorgio De Capitani. Questo è pazzo completamente. Don Giorgio De Capitani. No, a proposito invece del Grande Fratello VIP, c'è una discussione assurda, creata solo per fare un po' di casino intorno a una trasmissione, sì. Chiaro, no? C'è un ex pugile che è dentro, che si chiama Clemente Russo, no? Sì, sai chi è sentito. Clemente Russo? Sì, so il che quale era, utilizza un termine ma normale, friariello, che significa... gay, sì. Sostanzialmente, no? Sì, è un dispregiativo. Ma nello quale slang, dispregiativo? Ma basta, smettiamolo con queste cose. È un dispregiativo, chiaramente. Ma che un dispregiativo? Friariello, un po' frocetto. Volgare, appunto, un volgare dispregiativo. Ricchioncello, friariello. Vabbè, ancora, ma perché ragazzi, chiaro, però, ragazzi, però, è dispregiativo. Ma non è dispregiativo. Se volete dire che non è dispregiativo, ma non è dispregiativo. Chiama la Treccani. Ma chiama, dai, la Treccani su. E verificalo con la Treccani. Ma no, no, no. No. Sentiamo, dai. Non mi viene chiamarti Bosco, sei troppo simpatico. Esiste un nome molto simpatico a Napoli. A Napoli è una verdura con un fiore sopra questa, che è buonissima, si mangia in questi periodi. Si chiama Friariello. Ti posso chiamare Friariello? Bosco, il nostro Friariello. Friariello. Poi ha parlato pure di Ricchioncello, lo prende un po' in giro il Ricchioncello. Sì, ma ragazzi, va bene tutto ormai, ma a parte, no? Che tutto a uso e consumo delle telecamere, dello spettacolo, vabbè, eccetera, cioè non c'è niente di spontaneo. Ma c'è no, quando uno è là dentro, dopo un po', secondo me si dimentica che ci sono le telecamere e parla normalmente, quindi questo è il secondo fatto. Te la polemica che poi ha fatto con Signorini è vera allora. Cioè, ma andrebbe cacciato. Ma che no, non lo so, ma andrebbe cacciato, ma andrebbe mai? Ripreso in qualche modo. Ma, perché ma quando mai? Dai, in diretta su, davanti a milioni di persone, della finocchietta del ricchioncello, uno che chiaramente. Poi dopo ti stupisce se qualche ragazzino tenta il suicidio perché viene preso in giro. Il suicidio perché viene chiamato ricchioncello e Pinariello. Beh, sicuro, la pericolosità di questi programmi, che sono programmi di massa, che vedono tutti e soprattutto i ragazzini, devono dare l'esempio. Tu non puoi fare. Devono controllare il linguaggio. L'hai visto quello o no? Quello, non quel è il dipartimento là. Scuola visto quello in faccia, no. È normale che uno lo chiama Friariello o Ricchiuncello. Ah, è normale scherzare sulla... Senti, signori, ma non scherza, se è un modo di dire. Si toglie la vita per l'umiliazione. Ma non si tolgono la vita ma per queste cose. Non dai, può essere un modo di dire, non puoi, ragazzi. Perché se a scuola ti dicono ricchioncello, giustamente vai dalla maestra e gli dici guarda che quello mi ha offeso, mi ha preso in giro. I bambini devono essere protetti, non... Guarda, quello non è un bambino. No, ma voglio dire, se quel programma è visto anche dai ragazzi. Senti, signorini, senti. A casa mia, perdona, ma ricchiuncello è un'offesa. A casa tua? Ricchiuncello è un'offesa. Bravo, bravo, bravo, direttore. Io non ho detto né ricchiuncello, né gay, né nient'altro. Ti ho detto in modo simpatico, cioè, simpaticissimo. Hai offeso, e come se hai offeso? Perché ricchiuncello e procetto è un'offesa. Non ho detto questo, assolutamente non ho detto questo. Di persone. Fatemi vedere hai detto RVM questo che e l'abbiamo mandato in onda. Hai detto questo e l'abbiamo mandato in onda. Poi figuriamoci. Bravo, cioè, signorini. Per signorini è tutto finto, perché signorini, anche se gli dici frocio, non gliene frega nulla. Ma dipende assolutamente. In che contesto uno lo dice. Ma cioè, non gliene frega niente. Dipende figuriamo. Se uno lo dice per scherzo o nulla. Lo dice con disprezzo. Ma dai, su, dai. Io direi di chiosare con una massima di Mughini. Andare con una escort non fa male a nessuno. Mughinone. Penso che andare con l'escort, se un escort ti piace e ne vale la pena, è una cosa buonissima, non fai del male a nessuno. Però concetto che va sempre ribadito, eh? Concetto che va sempre ribadito. Marco D'Ancona, vai Marco. Ciao Marco, ragazzi. Dimmi. Volevo dire solo che sono un po' preoccupato per questa campagna elettorale di Renzi, perché siamo partiti qualche settimana fa che ha detto che se vince il sì, 500 milioni per i poveri. Oggi il ponte sullo stretto, raddoppio della 14ª. Io penso che domani parlerà tipo Kennedy, in 10 anni l'Italia conquista la Luna, eh? Io no, ormai adesso... tutti i giorni una, eh? Sì, ma se ne inventerà di tutti i colori pur di vincere, non c'è dubbio. Cioè, prometterà qualsiasi cosa, pure di dare i soldi a Parenzo se ha bisogno di fare un altro figlio. Cioè, Parenzo ha bisogno di fare un altro figlio? Beh, posso contribuire a questo, cioè, beh, pur, di farlo, pur di convincerlo per il sì. Cioè, ma assolutamente. Cioè. Valerio, Milano, vai. Pronto. Dimmi. Era per il discorso del referendum in Svizzera, sì. Perché nessun giornale ha fatto delle considerazioni su alcuni referendum che sono stati fatti prima. Nel 2014 è stato votato. Non mi interessa, Emilio d'Aosta. Emilio, dimmi. Pronto? Sì, dimmi. Cristiano, io. Cazzo, ci prega del referendum 2014. Beh, Emilio, un po' datato, era un po' datato. Io sono deluso delle sue affermazioni. Sì, su che cosa? Sulla vigliaccheria di assistere a una lite senza intervenire. No, ridaglia queste cose. C'è il diritto di No, non c'è nessun tempo. Che cosa? Qual è il problema? Qual è il problema? Per parlare in 20 secondi gli spiego tutto. Dimmi. Io ho 70 anni. Sì. Sono intervenuto 20 volte, 30 Bravo. Volte nella mia vita. Bravo. A salvare bambini. Beh, benissimo, non ti sto dicendo che hai fatto male. Non ti sto dicendo che hai fatto male. Hai fatto bene, ne sono fiero. Benissimo, io ho detto che c'è il diritto da parte delle persone che stanno in una metropolitana. Il diritto di essere vigliacchi. No, il diritto di andarsene. Il diritto di andarsene, il diritto di avere paura quando la situazione non è chiara. Non è che stava morendo un bambino lì davanti a te. No, sì, un cazzo. Fermo lì, fermo. La zanzara e la merda della Radio 24. Sì. Oscar, mi aiuti? Eccomi! No, stai attento, prendila di lì! Ma cosa? È scivolosa! Guarda che esplode questa notizia, guarda che è una bomba! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. Notizie esplosive. E schiene dritte. Attenti a noi due, ogni giorno dalle 8:20 su Radio 24. Con Alessandro Milan e Oscar Giannino. L'informazione che non ha paura. Semmai ne fa. JP Morgan Asset Management. Vi presenta La Zanzara. Crucianone, sei la solita testa di minchia. Vuoi teorizzare il diritto di farsi i cazzi propri della gente? Minchia, speriamo che ti menano a te, brutto stronzo. Fifone di merda. Oh, scusa, sto in ritardo con i podcast. Parenzo andava nell'altro vagone a chiamare aiuto. Vecchio, andavi in bagno a cambiarti il pannolone. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Caro David, la pubblicità dello Squatty Potty. Per capire, dello Squatty, sai che cos'è uno Squatty Potty? È un prodotto per uno sgabello che viene venduto, sì, per cagare meglio. Meravigliosa pubblicità. Scusami, non senti, sapevo. Cagare meglio, bisogna cagare bene. La posizione giusta per evacuare meglio. Ho capito oggi che è una cosa fondamentale. E mi hanno detto che è fondamentale cagare almeno una volta al giorno. Fondamentale, se tu non caghi una volta al giorno, non caghi bene ovviamente con tutte le cose che abbiamo spiegato, il tipo di merda che fai eccetera, comunque se non caghi almeno una volta al giorno c'è un problema molto serio. Beh, questo però è risaputo abbastanza, no? Beh, è sempre importante dirlo, è sempre fondamentale. Ma che cosa succede quando semplicemente ti accovacci? Voilà, il muscolo si rilassa e il blocco si scioglie in un attimo. Ora il colon è libero e pronto per la battaglia. Questo perché si evacua in posizione accovacciata. E ora potrai farlo comodamente a casa tua. Ecco a voi Squatty Potty. Non è uno scherzo. E ti regalerà la migliore sensazione della tua vita. È garantito. Non riesci a liberarti del tutto? Con Squatty Potty riuscirai a eliminare tutto. Passi troppo tempo in bagno? Grazie a Squatty Potty sarai più veloce. È garantito. E farai tanta cacca. Plop, plop, baby. Sei indolezzito a furia di espellere le pietre dal culo. Squatty Potty ti garantirà una certa scioltezza, diciamo. Ma non solo. Quando hai finito si ripone facilmente sotto il WC. Un poggiapiedi davvero degno di un re stitico. Vabbè, ma potrebbe prendere qualsiasi sgabello, no? Per forza questo, qualsiasi sgabello. Ma non ho mai sgabello. Sentito questo spot, no, io tu non sai un però. Cazzo, tu sai solo del referendum. No, ma non l'ho mai visto proprio in onda. Ma non è in onda, Rai, è sul web, ma che c'entra? Ah, dai. Sulla rete, ho capito, sul web. Allora, ragazzi, fra poco, se i collegamenti ce lo permetteranno, beh, presenteremo il personaggio. Un personaggio importante che ci parlerà del referendum, ci parlerà D'Alema? Del PD. Beh, però c'è qualcosa in comune con D'Alema, la regione, la Puglia. La Puglia. La Puglia, la Puglia, la Puglia. Emiliano, il governatore, Vendola. Ah, Vendola, fatto, bravo, hai chiamato Vendola. Ha fatto bravo. Politica, fra poco, dopo le 19. Fatto politica? Ha fatto politica. Beh, questo adesso, non mi dice molto perché chiunque purtroppo sì, ormai adesso ha fatto non politica. Fa più politica, fa un'altra cosa, fa un'altra cosa. Però oggi mi sono arrivati dei video dove c'è si è scoperto poi la. Io ho visto una signorina molto carina, eccetera, la sorella di un'attrice showgirl che si chiama Buccino, lei si chiama Maria Teresa Buccino, le è successo praticamente la stessa cosa che è successa a quella ragazza napoletana, cioè hanno mandato online, a me è arrivato su WhatsApp, devo dire la verità, WhatsApp, il video di questa signora mentre fa sesso orale, cioè fa un pompino in sostanza e poi fa anche, ha anche un rapporto completo con un signore che pare essere il suo ex fidanzato. Che poi ha mandato in rete questa roba qui. Lei ha denunciato tutto, la polizia postale. Credo. Però come ti arrivano queste cose? No, stamattina no, mi sono arrivate sul telefono, telefono quello dei messaggi WhatsApp, due o tre persone che mi hanno mandato, a loro volta probabilmente erano, non sono loro gli autori della diffusione, però poi hanno mandato anche agli altri. Io non ho mandato a nessuno, però non è che posso rimproverare questi perché mi hanno mandato il video. Però il video gira inevitabilmente. È la sorella della signora Buccino, la quale è stata hackerata anche lei. Ovviamente lei per avere fatto questo video in cui fa un pompino a un signore e in cui poi ha un rapporto completo, insomma scopa con un tizio, non ha nessun tipo di responsabilità, non comincia da dire che è stata imprudente, anche lei non doveva fare il video, se l'è andata a cercare, perché nei giorni scorsi il signore Emilio Fede questo disse, ti ricordi? Come no? Se la sono andata a cercare, ora a noi è arrivata una telefonata di una persona che al solito numero di Fede ha detto che cosa? Ha detto, Emilio, ma come cazzo fai a dire una cosa di questo tipo? Questa poi. Uè, direttore, ma lo sai che mi hai deluso? Mi deluso tantissimo, ma come si fa a dire che quella povera disgraziata se l'è cercata? Tu sei un delinquente e la telefonata su questo numero ti costerà la vita. Te lo giuro sulla mia vita. Ma è una... No, l'hai hai detto a me la vita. Cosa, hai detto una cosa, hai fatto una cosa di una gravità, mettendo il tuo nome e il tuo numero sicuramente, va bene, sul telefono intercettato alla procura proprio per minacce. Ma hai detto, ma che minacce? Io tu ti chiedo, sei, ma come fai a dire che quella disgraziata se l'è cercata? Un delinquente, ma ti giuro sulla mia vita che stavolta caschi nella merda. Ma vergognati, non si dice di una povera disgraziata così. Senti, vuoi che ti dica una cosa? Vai a fanculo e ti consiglio di rivolgerti ai carabinieri per essere protetto. Ah, addirittura per essere protetto? Sì, per essere protetto, te lo giuro sulla mia famiglia. Questo numero è sacro, drogato di merda, questo numero è... Ma io non mi drogo! No, ce l'hanno 18 persone, hai capito, figlio di puttana? Devi metterti in ginocchio e chiedermi perdono, o sei finito. Addirittura inginocchiarmi, ci mettiamo un poco di sale sotto. Sì, perché qui... passano le telefonate intercettate che riguardano proprio le persone che minacciano e che quindi... Ma io non minaccio, dico semplicemente, no. Come fai a dire che l'80% del... Te lo consiglio. Andare a fare in culo. Oggi ti costerà caro, sei finito, perché ce l'hanno 18 persone. E io sono la 19esima? No, tu sei un testa di cazzo, sei un farabutto, un delinquente. E anche drogato. E sei un istigatore al suicidio e all'assassinio. Ma io sono istigatore, sei tu che hai detto che sta disgraziata è andata a cercarsela. Dai, direttore, mi hai deluso, devi vergognarti. Mi hai minacciato di morte. Ma chi ti ha minacciato di morte, direttore? Hai minacciato di morte il Papa. Ah, anche il Papa? Mi hai chiesto oggi soldi per smetterla di chiamarmi da questo. Ah, io ti ho chiesto anche soldi. Ti dico subito che... Ma direttore. Ti faccio arrestare. Ma direttore. Ma con chi ce l'aveva il direttore? Non ho capito. Beh, con chi ce l'aveva? No. È sottoposto a chiamate continue, anonime. Di gente che poi gli manda filmati strani, dice lui, Sì, ma no, ma questo qua non c'entrava niente con quell'altro, cioè non era uno che minacciava, non era uno che minacciava, lo ha minacciato di morte. Va. Allora, dove andiamo? Andiamo a... Ok, Andrea, Roma, vai Andrea. Sì. Vai, dimmi. A proposito sempre della faccenda della metropolitana, intervenire e non intervenire. Sì. Da esperto della materia, in quanto processato per rissa e lesioni più volte. Tu sei stato processato più volte. Qui non chiama gente normale, Parenzo. No, cioè, no, meno male che non te chiamano ne accorgi, Lord, sì, esatto. Lord di no, solito. No, ma non occorre Lord, sai, basterebbe una normale decenza. No, a me sta bene così. Cioè, Andrea dice di essere stato più volte processato per rissa. Per sì. Beh, ma perché sei uno... E per lesioni. No, ma vabbè, goliardate di gioventù. Goliardate, insomma. Vabbè, ok. No, ma non è normale, però, non solo io, credo, però... Volevo dire che purtroppo non si può intervenire, perché lo Stato ci ha resi tutti degli Per il semplice motivo che se uno interviene e se mai dovesse riuscire ad avere la meglio su quei tre strafatti di cocaina e li crocca di botte, dopodiché arriva allo Stato e ti processa per rissa. Vero, questo ce l'hanno detto in tanti. Alla fine la gente che fa? Anche se vuole intervenire, non interviene perché non ne può più. Non ne può più quando vede una scena di questo genere. Non ne può più neanche quando uno vede un incidente stradale. Vedi un incidente stradale, chiami, dopodiché ti convocano. Allora, sei stato tu a causare l'incidente? No, beh, adesso non è che ti convocano sempre. Non è che ti convocano sempre per dire se è stato tu se tu chiami. A te è mai capitato di chiamare? A me ma no, è perché non ho mai visto, non ho mai visto. E che, fa, ho che hanno visto fatto? Uno t'hanno... che si è schiantato con la moto. Ho chiamato. È arrivata l'ambulanza, sono arrivati i vigili hanno preso tutti i miei dati. È normale, detto, giusto. Dobbiamo appurarci che non sei stato tu a causare l'incidente. Cioè tu dici, se uno interviene poi ha troppi cazzi, dici, troppi soprattutto cazzi. A difendere con le mani qualcuno. Allora, questo non c'è dubbio. La faccenda è semplice, o intervieni e le prendi, e allora non vale la pena, o intervieni e le dai e ti processano. Sì, sì, ma questo è uno degli elementi che io ho portato, come dire, all'attenzione di questa larga platea nel caso di Roma. Cioè, la gente ha tutto il diritto di farsi i cazzi propri, un po' perché ci sono poi i problemi. Hai il diritto della, se vedi qualcuno di avere in paura, difficoltà, di... qualcosa devi fare, questo è sicuro, perché altrimenti c'è anche l'omissione di soccorso. Insomma, Marco, ci sono provincia delle cose. Di Como, dai, Marco, provincia di Como. Oh, ecco. Cazzo, c'entra l'omissione di soccorso, non è che metti sotto qualcuno e poi scappi, che c'entra? Beh, no, ma dai. C'è anche questo, spesso le persone non intervengono neanche quando vedono qualcuno rantolante per strada, dicono no, Marco, io provincia di Como, ho la filosofia dai. Di Razzi, te lo dico da amica. C'entra. Però qua che sto scalpitando perché sì. Effettivamente adesso mi sono rotto un po' i coglioni di sentire tutti eroi, tutti che bisogna intervenire sempre a proposito del metro, quello che mi ha presieduto ha ragione, ma io ti dirò di più. Il discorso è che sono tutti... Mi ricordo che ho chiamato, io sono 100 kg e faccio kung fu da 4 anni. Sti cazzi, bene, ma non sono tutti così. Certo, sì, la prima non so, a parte non infatti si sente. Ognuno Marco, in base alle proprie capacità e possibilità interviene. Simone ovvio. Da Milano, vai Simone. Sì, ciao, Simone Lorini da Milano. No, non c'è bisogno di dire il cognome, vabbè, non ce ne frega niente. Vabbè, stammi a sentire. Allora, io volevo intervenire su Clemente Russo, una roba, però allora... adesso no, aspetta, adesso ho cambiato idea subito, perché ho sentito i due persone che hanno parlato prima di... Allora, a parte che te sei di uno scurrile, anche prima merda, cagare, se tu cambiassi leggermente il lessico sarebbe più piacevole ascoltarti, però vabbè, questa è una piccola basta parentesi. Basta spegnere la radio. No, ma no, perché invece mi piace ascoltarti. E allora, spegni, allora contenta, non mi dare... anche i miei figli, non mi dare suggerimenti su come mi devo comportare, perché è ridicolo, perché sei patetico. No, non sono patetico. Sei patetico. Posso chiuderla questa piccola parentesi? Ma non la puoi chiudere, non è nemmeno aperta, se sei semplicemente patetico. Posso andare avanti? Sei patetico, andiamo. Ok, sono patetico. Diglielo anche ai miei figli che hanno sentito cagare, merda. Perché cagare e merda, qualche problema c'è a dire cagare e merda? Ma no, ma sei comunque la radio, mi volevo qual è il problema? Quanti anni hanno? Non ho capito. Io non sono affatto agitato. Perché cosa, volevo, dico, credi, cosa dicono? Fare la popò? Ecco. Che dicono? Fare la popò? Ma non cosa è dico? Quello il fare discorso, la cacchina? Ma non è cagare, cagare, cagare, cagare. Di merda? Ma no, ma la merda lo dico sempre, non è un problema. Okay. Merda lo dicono tutti. Posso chiuderla questa parentesi? Ma no, ma tu forse non hai capito. Forse hai capito bene che qui non decidi tu cosa chiudere e cosa aprire. Lo decido io e se non ti sta bene te ne vai a fare in culo, chiaro? Molto semplice. Ma è molto semplice. Sì, tantissime. Se non ti va, spegni e te ne vai, capito? Ma no, ma chiaro. Non è questo, ma non peggio è questo, per te, non mi interessa. Non mi interessa. Non sono affatto agitato. Accetta questo suo linguaggio. Ma non mi interessa. Se non l'accetti, cambia, non mi rompi. Non ci rompi le scatole con parentesi inutili. Simone, aspetta un attimo, fermo, che c'è la borsa. Cruciani, la sua voce è meglio dei preliminari. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da G-Group, la prima multinazionale italiana del lavoro. Scopri i nostri servizi su ggroup.com. La Zanzara. Cruciani, io ho la fantasia di farlo ascoltando la Zanzara, ma il mio partner non vuole, convincilo te, dai. Allora andiamo a Caserta da Pino, vai Pino, anzi no, chi c'era, scusami, con chi ero? Ragazzi, quello di prima, chi è? Dov'è? Pino Caserta, dai, no, dov'è quello di prima? Simone? Sì, Simone, vai, Simone. Sì, Simone. Simone, no, vai, vabbè, dimmi. Ma sì, possiamo chiudere qua, ci sono rimasto male adesso della telefonata, ci sono rimasto veramente male. Pazienza, ci sei rimasto male, sapessi quante volte ci rimango male. Ecco, ci sono rimasto male, perché, quindi non c'ho più voglia di intervenire, vi saluto, ciao. Sì, ma no, ciao, che sei rimasto a fare adesso in linea? Per perché non mi sembrava corretto mettervi giù così, ma però ho fatto un intervento, mi ha mandato offeso, a fare ragione, il culo. Sì, mi sono offeso, sì. Posso offendermi? Io metto giù, ma vado avanti a ascoltarvi. Sì, ma cosa volevi dire? Cosa volevi volevo dire, parlare di Clemente Russo. Volevo dire una cosa su Clemente Russo. Cioè che cosa? No, non te lo dico. E dimmi che cosa, dico. No, Cruciani, ci sono rimasto così male. Così rimediamo. Stavi a sentire, scusa, è un anno, Cruciani, sì. È un anno che cerco di intervenire. A me piaci te, mi piace Parenzo, una cosa. Cerco di intervenire. Ho capito. Mi fa male che mi sono dimenticato quello che ti volevo dire, prima cosa. Adesso volevi mi parlare del Friariello, dai, di Russo, del Friariello. Volevo parlare del Friariello perché secondo te... Per me fa male a far così, perché lui è un scimmiotun, ti capì? Allora io un scimmiotun a cioè Milano. Uno scimmione, dici? Ma sì, uno scimmiottone, a parte che è un maleducato. Però quando sei un personaggio pubblico, vabbè, allora alla fine sto con voi in radio, te lo dico, non me ne vado, vabbè. Vai. Un minuto e poi grazie. Ti metto giù. Ma non ti preoccupare, grazie. Allora, io ti dico che lui è un personaggio pubblico, come lo siete voi, vabbè, a parte dire le parolacce, però, vabbè, voi dite le parolacce, vabbè, chiudiamola lì, non apriamola perché sennò ti metto giù subito. Ma che sei, dell'Azione però, Cattolica? Bravo, però, dici ti metto giù subito. No, ma assolutamente, però ti volevo dire che lui è un personaggio pubblico. E allora, ragione Parenzo, dire che nel momento in cui delle persone che magari sono un po' così, non sono proprio maschi, si sentono così, si offendono e quindi lui è un personaggio pubblico e si deve comportare. Se invece deve fare odias dicendo delle parolacce, perché lui è un scimmiotun, ma non è una parolaccia, no, ma non sa parlare. Ascolta, è offensivo, non è che ci vogliono gli intellettuali là dentro, ma non è che ci vogliono gli intellettuali, chi è degli intellettuali? Ma fratello, fatto dalle persone normali possono permetterlo, lui che è un personaggio pubblico non può permetterselo. O se no, ascolta, c'è gente che c'ha a casa il suo poster, come ce l'ha anche te, perché io una volta sono andato da una cliente e c'aveva il poster di Cruciani, dovevi vederla, facevi prima a saltarla che girargli intorno. In che senso? C'era la fotografia. In che senso? Non ho capito, facevi prima a saltarla. Facevi prima a saltarla, si dice a Milano. Ma amico mio, amico mio, noi parliamo Milano in tutti i si dice, fai prima a saltarla che... Sarà stata 120 kg di donna e io vado a casa sua, no, che gli faccio un intervento, io sono l'antennista e gli vedo la foto, te ti conosco, te sei proprio brut, ma ti vedo, no? Ma che c'aveva? Com'era questa foto? Era in bagno? Era in bagno? No, in cameretta c'aveva le tue foto di Cruciani. Magari si masturbava. Gli piaci? Ma non penso, non sei sessualmente, non sei molto attraibile. Ma che cazzo ne sai tu, scusa? A parte che si dice attraente, non attraibile. Ho una grande componente femminile, capisco, ma te sei un uomo. Sei un po' checca, diciamo. No, è una componente. Allora, Parenzo sicuramente mi capisce. No, ma ho capito benissimo anch'io. Cioè, no, sì, tutti a noi hanno, tutti hanno una componente. Uno può essere eterosessuale, ma avere una ma componente no, femminile. Ma che cosa strana che mi dici? Non lo sapevo, Simone. Vabbè, a parte questo, guarda, posso dire del discorso invece che ho chiamato, che potevo dire, perché io sono uno di quelli che chiama le forze dell'ordine. Quando c'è qualcosa invece bravo, a me mi piace intervenire. Io sempre, non si sta sempre parlando di questo, dai. Si parla di questo, ma se vedi qualcosa per strada devi intervenire. Per Simone, forza. Ciao, Franco da Roma. Franco, ciao Franco. Pronto? Oh, vai, dimmi, Franco, dimmi. Ciao, Cruciani, buonasera. Volevo intervenire per quanto riguarda l'aggressione alla metropolitana. Allora, io 2 anni fa, noi in metropolitana per strada. Sì. Io e mio cugino abbiamo soccorso una coppietta, 2 ragazzi, sì, che gli hanno dato, allora a lei gli hanno dato una schiaffa e l'hanno sdraiata per terra, a lui gli hanno dato 2 cazzotti, noi siamo intervenuti, sì, e a questo l'abbiamo fatto, no, KO, di più, l'avete massacrato, 4 denti, sì, e gli abbiamo rotto un braccio, ma che aveva fatto questo? Anche. Gli abbiamo lesionato 2 costole, il 6 ottobre abbiamo la causa tutti e 2, io e mio cugino. Quindi la gente, se fa gli affari suoi, fa bene. Cioè, voi siete intervenuti, l'avete corcato un po', e adesso avete una causa a ottobre. Sì, il 6 ottobre abbiamo la causa al tribunale a Roma e dobbiamo pagare, sicuramente dobbiamo pagare questa persona perché ci ha avuto interventi chirurgici, ci ha dovuto rimettere i denti, e la dobbiamo pagare. Quindi, quando una persona se fa gli affari suoi... Io non gli do torto, perché da quel giorno anch'io mi sono imparato a farmi gli affari miei. No, ma certo, ma è normale quello che ci stai dicendo. Certo, voi... Ma non è vero. Italiano, vedi, questo era un extracomunitario, ma no, perché ce l'ho con gli extracomunitari, per carità. Poi dico, vedi come funziona lo Stato italiano? Ma che vuol dire? Chi è lo Stato italiano? avrà subito un processo. Nel corso del processo avranno valutato che lei ha usato eccesso. Dai, su, ma oppure questa è intervenuta. Ma non dire stronzate, questo qua abbiamo, è intervenuto. Non abbiamo mica letto le carte. Forza, su, dai. Cosa, scusa un attimo. Non hai capito qual è. Adesso sembra un paese in cui la gente va in galera perché soccorre altre persone. È successo immagine, ma che stupidaggine. Adesso passerò anche i guai perché sono un pugile dilettantistico. Sì. Adesso dilettante, che ho 52 anni non lo faccio più. Però diciamo quello che mi sono parlato mi è rimasto. Ma che c'è? Quando meno, io meno con cattiveria. Certo, ma non ho capito, questo qua che avete, diciamo, che avete picchiato, che aveva fatto, che stava facendo? Ah, non so, per un parcheggio ha menato prima la ragazza di lui, gli ha dato uno schiaffo alla pista. Cioè questo giustamente Franco è intervenuto di fronte ad una cosa chiara, ha picchiato questo tizio, magari è un po' esagerato, e adesso c'è una causa sotto. No, aspetta, noi siamo intervenuti e abbiamo detto: ma che stai a fare, picchi una donna? E allora? E lui si è rivolto verso di noi, a me l'ha dato subito un calcio. E allora lì non ci ho visto più, poi si è messo in mezzo pure mio cugino. Vabbè, comunque hai una causa sotto. Questo è il punto. Fatto bingo. Va bene, ciao Franco, ciao. Gonna be a change in your ways. I met a cheerleader, was a real young breed. All the times I can reminisce. All the best things in loving with a sister and a cousin. Allora ragazzi, allora caro Parenzo, è passata dal PD a un mestiere, a un mestiere che è un mestiere nobilissimo, è un mestiere come gli altri. È un mestiere... Il giudice della Corte Costituzionale? No. È passata dal PD, cioè non è che prima era iscritta al PD, però ha partecipato alla era delegata all'Assemblea Nazionale del Partito Democratico. D'accordo. Cioè è anche militante renziana all'epoca, così mi dicono, così, va bene. Così riferiscono. È passata dal PD al porno. Vedi che è sempre fatto, lì, alla fine sempre là si sempre finisce. Però con si, te. Si parte sempre dal là. PD e si arriva al porno. Sì, un personaggio che oggi su internet il video ho visto. Ha fatto un sacco di click. Caro Parenzo, lei si chiama Milena Mastromarino, alias Malena. Buonasera. Come andiamo, cara Malena? Come andiamo? Bene. Ma dove ti trovi in questo momento? Malena la pugliese. Dove? A Budapest. Ah, a Budapest. Vabbè, a vedere come i paesi ex comunisti sono tornati, diciamo. Bene, veramente no. Immagino. Ha mandato un provino. Budapest, sì. Come ti sei avvicinata al dottor Siffredi, al professor Siffredi, direi io? Allora, io ho mandato mail, foto, da un sacco di tempo ci sto dietro. Sì, da quanto tempo? Trattante, da parecchio, un annetto. È un anno che corteggi Siffredi, diciamo, no? Corteggi sì. Per entrare nella sua scuola o per fare subito dei film? Innanzitutto per essere valutata. Valutata. Ma che tipo di cose mandavi? Cioè, ovviamente mandavi provini anche di sesso? Oppure... No. Foto. Solamente foto. Foto, come si dice? Sì, sì. Solamente delle foto, ovviamente foto nuda, immagino, no? Erotica. Erotiche. Che vuol dire foto erotiche? Sono contenti di questa sua nuova occupazione? Non ho capito. No, dico a casa, in famiglia, sono contenti di questa sua nuova occupazione che lei passa da Renzi a questa nuova attività? Io innanzitutto non passo da Renzi, da essere agente immobiliare in primis da 10 anni. Esatto. Ottimo. Agente immobiliare. Si vende sempre qualcosa, diciamo, nella vita. Cioè, ognuno di noi vende qualcosa. Può vendere meglio di me. Ecco, ma dico a casa, sono contenti di questo suo cambio, diciamo così, di professione? Sì. Quello che voglio io. No, d'accordo, ma tuo padre che ha detto, cara Malena? Nella tranquillità più assoluta, è quello che voglio io. No? Cioè, d'accordo, tu e a poi tuo... 30 anni, non sono una bambina. No, ma certo, a 30 anni. Certo. Ma tu a tuo papà che cosa hai detto? Papà, voglio diventare una pornostar. Cosa hai detto? No, ma magari non gliel'hai detto, non lo so. No, gli ho detto che sono stata chiamata per fare un provino. Ah, ok, va bene, valuta, vediamo. Valuta, così, va, valuta, vediamo. Magari un provino di un film, dice, meraviglioso, bene, con quale maestro lavorerai? Con Tornatore, con Sorrentino? No, con Mr. Siffredi. E poi, comunque, cioè, sapevo di non avere nemmeno il tempo di venire qua. A me verrebbe un colpo se mia figlia mi dicesse così, però... Non ho capito. No, a me mi verrebbe un colpo, dico, però. Sai. Perché ti verrebbe un colpo? Cioè, mi verrebbe un colpo, mi direi che ho sbagliato. Papà, mi dispiacerebbe. Perché? Se non sono un ipocrita, mi dispiacerebbe da morire. Mi verrebbe un colpo. Farei un infarto. Ecco, voglio dirvi questo. Sì, sì, sì, sì. E farei di tutto per evitare che facesse questa roba qui. Però poi, ragazzi, sono strano. Tuo padre, io, figuriamoci, si è messo a ridere e ti ha abbracciato. Ma ha capito il film, secondo me. No, no. Ma ha capito tutto, sì. Ha capito che aveva a fare i film porno. Tranquillo, tranquillo. Ma io sinceramente punto molto con rapporto con mia madre, più che altro. Ah, e tua madre che dice invece? No, tranquilla, tranquilla. Sì, tranquilla, sono disperati, piangono da giorni, ma sono tutti tranquilli. No, assolutamente no. Cioè non ha detto ripensaci, però continua a fare l'agente immobiliare. Cosa ha detto? No, ma hanno solo detto, sei una bella ragazza, sei intelligente, però se quello che vuoi, ok. Ok, ok. Ok, cioè se okay. Ti hanno dato l'ok, l'assenso, diciamo, l'assenso. Sì, hai l'ok. Soprattutto di tua madre. La benedizione di tua madre. Bravi loro. Voglio diventare una pornostar. Bene, un attimo solo, ferma lì, 30 secondi, ferma. Cruciani, lavati, zozzone. La zanzara. In collegamento con noi da Budapest, Malena la Pugliese, così ormai soprannominata dal web e da tutto il mondo, la nuova scoperta di Rocco Siffredi, passata, così si dice naturalmente semplificando, dall'Assemblea Nazionale del Partito Democratico del 2013 al set dei film porno. Vuole fare i film porno, ha ottenuto il sì dei suoi genitori, in particolare della madre, che non si è scandalizzata. Tua madre ha mai visto un film porno? Quanti anni ha tua madre? Tu ne hai 30, tua madre ne ha? 50 e qualcosa in più. Ah, beh, poco, cioè è giovane tua madre, no? È sì, giovane. È ovvio. Mai visto? Avere un buon rapporto, cioè, con i genitori. Ecco, no? Ma lo sa che tu vai a fare quelle robe lì? Cioè che vai a fare sesso in maniera anche forte, no? Sì, lo sa. È lo giovane, sa. Non è. Cioè li conosce i film, insomma, li conosce i film. Non so se li conosce, ma immagino sicuramente. Ecco, io voglio capire una cosa. Tu come sei molto renziana? Cioè ti piace molto Renzi? Sì, mi piace. Ti piace? Che cosa ti piace di Renzi? La sua capacità di coinvolgimento, diciamo così. Sì, cioè il carisma, tu dici, no? Il carisma, sì, sì. Come uomo sì, pure ti piace, no? No. Come uomo non ti piace. L'uomo, sì. Sì, però finisce là. Cioè non è il tuo uomo ideale. Ecco, no, ma tu no, come no, sei no, capito? No. Eri delegata all'Assemblea Nazionale del PD, cioè in che senso? Spiegami. No, io sono delegata nazionale all'Assemblea del PD. Ancora adesso? Sì. Cioè hai partecipato anche recentemente a qualche cosa o no? Allora, sì, considerando che loro fanno due assemblee l'anno, l'ultima non l'ho potuta fare per i miei problemi personali, la penultima sì. Capito Parenzo? Ha partecipato alla penultima Assemblea Nazionale del PD. No, ma questo è meraviglioso, va benissimo, le fa anche onore. Dai, sono finita anche sul Corriere della Sera, il mio selfie con Renzi, beccano sempre me. Cioè, capito, pure il selfie con sì, Renzi. Sì, ma cioè, questo è bellissimo, ma è meraviglioso. Ma tu, per esempio, sei una di quelle che voterà sì al referendum? Sì, certamente, no? Vedremo se non sei impegnata in qualche ripresa a Budapest, magari, no? Lei adesso a Budapest ha preso contatti col Partito del Socialismo Europeo per ragionare sul futuro della sinistra in Europa, no, immagino. Assolutamente no. Assolutamente. Senti, il tuo mito a livello di pornostar chi è, cara Malena? Che ne so? Il mio mito uomo è ovviamente Siffredi. Vabbè, no, donna naturalmente. Donna. Cicciolina, donna. Signora Moana Pozzi, signore Staller. No, Moana. Ci mancherebbe. Moana, e conosci per caso? E tra Moana e Zagrebelsky, ad esempio, chi preferisce lei? Tra Moana e il professor. No, dico tra Moana e il professor Zagrebelsky, che in questo momento è impegnato nel comitato per il no. Non lo conosce, sì. Professor Zagrebelsky. No. Non ha il piacere. Pasquino, professor Pasquino. Conosci il professor Pasquino? Non li conosce. Violante, che è per il sì, almeno, Luciano Violante. Ma no. Non li conosce, Violante. Era delegata all'Assemblea del PD, ma non conosce questi signori. Ma neanche Violante. È il nuovo PD, ma Luciano Violante, dico, che è per ma il sì al referendum. Ma non lo conosce, è il nuovo PD di Renzi, il passato va azzerato, questi personaggi qua non valgono più niente. Tutto è il PD nuovo, ci sono anche le pornostar all'Assemblea Nazionale del PD. Parenzo, ti devi adeguare a questa, no, per carità, a questa cosa, scusami. Però ricordi diversi del partito, ecco, poco appunto, male, benissimo. Senta, lei praticava, cioè, ha frequentato anche dei dirigenti del Partito Democratico, immagino che queste no, sue... assolutamente no. Cioè, vuol dire, lei il sesso lo vive in maniera libertina oppure... oppure è fedele, diciamo. Sei fidanzata innanzitutto? No, non sono fidanzata. Non sei fidanzata? No. Beh, nella sua condizione è anche difficile, diciamo, no, col lavoro che ha scelto. È pieno di pornostar fidanzate, ma che sì, però è un po' strano. No, ma Ma no, no, no, no, no. No, non è strano, no. Va bene, ragazzi, non... vabbè, convincetemi del contrario, dai, ma sono strano io, figuriamoci. In che cosa, Malena, in che cosa sei specializzata a livello sessuale? Cioè, come ti sei presentata a Rocco? Cioè, a me piace fare queste cose, che ne so, delle gangbang. Ma non ho avuto ancora il mio debutto con Rocco, io sono qui, non ma ancora avuto. Non c'è stato. Sì, non c'è stato, d'accordo, ci sarà però, perché lui ha detto che ci sarà. Ecco, ma tu come ti sei presentata? So fare questo, sono specializzata, che ne so, in gangbang, vorrei fare anal, vorrei fare... No, no, no. Semplicemente che è un lato sessuale abbastanza aperto, diciamo. Che vuol dire un lato sessuale abbastanza aperto? La cosa si può interpretare in mille modi. Ma come te lo faccio spiegare? In parole aperta a qualsiasi tipo di esperienza. Okay, diciamo sei aperta a qualsiasi cosa, diciamo. Sei aperta a qualsiasi cosa. Dunque, perché tu... vinca il sì, immagino, però al referendum non gli interessa niente. Cioè, tu hai già fatto hai già fatto molte cose nella vita privata oppure no? Cioè, hai già fatto, cioè sei stata anche con più uomini insieme, già, che ne so, cose di questo tipo? Beh, o no? È ovvio che ho una sessualità abbastanza, diciamo, prorompente, no? Cioè, nel senso, sei già qui. Non lo so, magari invece sono qui proprio per mettere a nudo la mia sessualità, che penso sia una sessualità comune a tante persone. Penso, beh, insomma, sì, adesso non è sempre adesso, così. Non è, non è sempre andiamo così, calmi. Però noi, cioè, voglio dire, hai già fatto qualche gang bang, per esempio, cose in cui Rocco è specializzato, l'hai già fatta nella vita privata o no? Ho detto che sono aperta a tutte le esperienze. Vabbè, ma andiamo alle cose concrete. Adesso non restiamo su. Non restiamo, devi fare la pornostar, non è che devi fare la Forlani, cioè, non è che devi fare la diplomatica, diciamo. Un po' no? Ci si è messa lei, signora. Io ho provato in qualche modo ad aiutarla. Zagrebelsky, Violante. Io un po' ci ho provato per parte mia. E a questo punto, però, scusami, Malena, come si dice, so cazzi. Non è, questo punto, perché, questo cazzi sicuro. Cioè, no, se... voglio dire, dal punto di vista per me metaforici, cioè, per esempio, però... una sua collega, futura collega, perché sì, ancora tu non sei, la signora Valentina Nappi, frequentatrice di questo luogo, ecco, radiofonico, spesso è per esempio specializzata nelle gang bang. Figura. Anal gang bang, per esempio. Ah, okay. Non sapevi, non conoscevi la signora Nappi? Proprio una nicchia di mercato, sì, la signora. Si è specializzata in questa nicchia di mercato. Ecco, la tua aspirazione qual è? Cioè, la tua nicchia di mercato che vai a cercare, qual è? Sempre così. Ridiamo. So cazzi, altro che ridiamo. Amica mia. Sono tutta da scoprire. Rocco che mi ha scoperta. Ti ha scoperto. Ma sei già stata a letto con Rocco, per esempio? No, ma no, devo ancora fare il mio debutto. No. Ma ci vorresti andare? Ti farebbe piacere fare una scenetta, una scena con Rocco? Ma non è più lì ormai. Così si dice, ma poi in realtà... Lo so, però lui ormai, cioè, ci segue. Ma non hai paura dell'AIDS, per esempio? Non hai paura dell'AIDS, no? Ma no, perché siamo controllati costantemente. Però, amica mia, tutto il giorno lei cosa fa? Gira anche la città? Va a vedere che sono i monumenti storici? No, sono chiusa in questo paradiso terrestre, bellissimo. No. Qual è il paradiso terrestre? Cioè, la scuola di Rocco? Sì, nella scuola, sto qua. Comunque, sì, certo, è curioso. Una delegata all'Assemblea Nazionale del PD, renziana, che diventa pornostar. No, perché lei che sa che comunque Budapest è la più bella città del Danubio, insomma. Chi è ne una... frega questa di Budapest? No, sta lì rinchiusa nella scuola di Rocco, vuole diventare pornostar. No, lo dico per lei, che magari se ha 5 minuti, per carità, benissimo, tutte le cose che ha da fare. Ma è difficile, qui siamo tutti il giorno sul set impegnati, poi devo trovare comunque qualcuno che mi accompagni. Però è pieno di musei, c'è il Palazzo Reale da vedere, magari se ha 5 minuti. Io non ci sono mai stata. Se qualcuno avrà il piacere di accompagnarmi qui, ma qui, ragazzi, si lavora, italiani, qui si lavora. Ma hai girato già qualche scena allora o no? Non ancora, aspetto ancora il mio debutto. Un attimo, lo aspetto solo ancora. Che debutto, ragazzi, sì, sì, che debutto. Malena la Pugliese, un attimo solo, altri due sì, minuti. Sì, sì, sarà un debutto live, lo potrete seguire live. Live pure, live. Yes. Malena, che voce però, David. Vabbè, comunque, pubblicità. Siete veramente pietosi. La Zanzara. Allora, ragazzi, è un caso più unico che raro, quello di passare dall'assemblea delegata attualmente dall'Assemblea Nazionale del Partito Democratico. Spero che non la cacceranno, Parenzo, per indegnità, sarebbe di un moralismo pazzesco. Beh, amico mio, ma come? Perché scusi, dovrebbero, signora, non penso. Signora Malena, alias Milena Mastromauro, se non sbaglio. Mastromauro è un'altra persona. Milena Mastromarino, però in realtà non, tu sei... Chi è che ti ha chiamato Malena? Io. Tu, Malena, cioè nome suo di battaglia. Nome d'arte. Va bene. Ma... No. Nome d'arte, sì. Nome d'arte. Allora, com'è che sei arrivata all'Assemblea Nazionale del PD? Scusami. Chi è il tuo, diciamo, di quale corrente sei del PD? Ecco, sì, questo è interessante. Beh, sì, questo è interessante. Cioè, una persona che passa da lì al porno, di quale corrente sei? Renziana? Sì, Renziana. Renziana, ma è come il tuo mentore in Puglia. Chi era il tuo mentore? Dunque, non ti sta molto simpatico, per esempio, il presidente della Regione Puglia, il signor Emiliano, grande nemico di Renzi. Come lo trovi? Ah, no, lo conosco, è una persona rispettabilissima, per carità. Per carità, rispettabilissima. Però... correnti politiche non c'entra assolutamente nulla questo. No, lo per carità. Lo conosco personalmente perché giustamente siamo molto vicini come paese. Ah, siete vicini. Lo conosci di... aspetta, che sei con l'auricolare che non sentiamo più bene? No, ho messo Bluetooth, ho messo viva voce. No, per carità, perché viva voce non si può. Mi avete tenuto in pubblicità un sacco di tanto. Okay, sì, hai ragione. Dicemi. Ecco, bene, perfetto. Allora, insomma, chi è il tuo mentore in Puglia? Cioè, chi è che ti ha fatto entrare all'Assemblea Nazionale del PD? Da cui poi sei andata al porno. Non è che mi ha fatto. Che ne so, un tizio, un signore. Entrare, cioè, non è che c'è uno che ti fa. Però insomma sei renziana di ferro, se così si può dire, una renziana di ferro. No, non sono renziana di ferro, seguivo la politica all'interno del mio paese, così. Qual è il tuo paese che non mi ricordo più? Gioia del Colle. A Gioia del Colle. Ah, Gioia del Colle, sono a conoscenza di questa cosa, di avere questa signorina. Beh, che adesso tutti è diventata praticamente diventerà no, una star, probabilmente una star del porno. Ecco, cosa ci vuole per diventare star del porno, cara Malena? Cosa bisogna fare secondo te? Tanta passione, passione e perché tanta umiltà. Ma, sì, va bene, però a me questo lavora tutti gli aspetti. Oh, caspita, non è che siamo a giocare qua. No, per carità, voi vedete il bello, tutto questo. No, il bello, ma adesso, non è assolutamente. No, però è faticoso, lavora. Dice. Ci si fa il culo. Ci si fa il culo. No, questo anche questa non c'è è un'espressione dubbio. Anche questa non che c'è magari. Dubbio. Questo non c'è dubbio. Anche perché quella roba lì è molto richiesta all'ANAL. Tu sei convinto, sei già da quel punto sono di convinto. Vista. Sei da quel sono punto convinto. Sei già disponibile da quel punto di vista, o sbaglio? Sì. Sì. Altrimenti non si va da nessuna parte, lo posso sai. Consigliare un itinerario artistico culturale per Budapest quando lei ha finito di fare i suoi, diciamo così, ma lavori. Ma non gliene frega così. Niente, deve scopare questa qua fra poco. Ma qualcuno che mi accompagna, certamente. Ah, ecco, mi ha chiamato il signor Diego Volpe Pasini, che Parenzo ecco, conosce, dicendo che mi propongo per accompagnare la signorina Buda per questa pronuncia. Vedi, signor Diego Volpe Pasini, sì. Vecchio consigliere, ex consigliere del signor Berlusconi. Vecchia, storica, grande Volpe, mi pare. Ecco, che Berlusconi fa 80 anni, situazione. Mi piacciono sempre le belle donne. Vuoi fare anche un saluto al dottor Berlusconi, che fa fra poco 80 anni, fra qualche giorno? No, che faccio? Gli faccio gli auguri quando fa 80 anni. E beh, fra due dici porta male. Sì, non si fanno mai prima, ha ragione. La signora su questo ha ragione. Sì, sì, sì, cioè, sì, non sì. Sei, abbiamo ricapitoliamo prima di chiudere questo collegamento. Allora, sei fidanzata, okay. Non sei fidanzata, giusto? No. Non sei fidanzata. Tua madre no. Ha dato l'assenso a questa okay. Tua nuova a ma questa dai, tua nuova carriera. Disperata, ma non che non sarà senso, dai, ma hai fratelli, sorelle? No, sono felicemente figlia unica. Beh, felicemente, non è un delitto. Pensa che soddisfazione. Beh, ma che soddisfazione chi? Quando torna a fa la spesa, cosa fa sua figlia allora? Continua con l'attività politica, la cara no, la cara fa la pornostar. No, guarda, fa un altro lavoro in questo momento. È a Budapest. Ah, dice l'amica della madre, bene, a Budapest, è bello, inserito nel contesto del socialismo europeo, quello che si trasforma. No, non esattamente, è in una scuola. Ah, bello, la scuola politica di Budapest, è famosa la scuola politica di Budapest, molto frequentata dai leader del PSE, di Hollande. No, alla scuola di Rocco Siffredi a fare i film porno. E a quel punto sviene l'amica della mamma. Sì, ho scelto la migliore scuola a Budapest. La no? Migliore scuola. Cioè. La migliore scuola, diciamo, di formazione politica. Ragazzi, io non riesco a dire che è normale. Poi, però, i tuoi colleghi agenti immobiliari, che cosa hanno detto i tuoi colleghi? Non li ho ancora sentiti. Non li ancora... Beh, adesso sentiranno, sentito. Adesso sapranno. Ma dov'è lì a Gioia del Colle fai l'agente immobiliare? Sì, ho la mia agenzia. Te li sarei scopati certo. Tutti quelli là, scusami se te lo dico in maniera così cruda. Ma questi, no. I tuoi colleghi. Ma no, quella è una professione seria, garbata. Vabbè, ho capito, ma non è che non scopano gli agenti immobiliari, scoperanno pure loro, no? Cioè, ma hai detto non che scopi i colleghi, no. Non ti scopi i colleghi, va bene, d'accordo. Ma tu con quanti uomini sei stata fino adesso? Hai fatto un conto? No. Vabbè, dai, su, dai. Ma no, ma come faccio a fare un conto? Ma che ne so, una cinquantina, no. Un centinaio, hai 30 anni, un centinaio te li sarei fatti, no? Non lo so, sono diversi, non parte il conto. Il più lungo fidanzamento che è stato, quanto è durato? Parecchi anni. Beh, sarà contento. Adesso l'ex fidanzato sarà, come dire, allibito. Ma forse, perché no? Allibito? Gente che no, magari tutto dice... normale. Ma scusa, ma non ho capito. Vorrei sapere, problema? Cara signora Milena, che qui si fa passare per normalità cose che le assicuro. Malena, non Milena, so... Malena. E qui poi ha scritto Milena sul computer che ho qua davanti. Scusami. Scusami, Malena, vabbè. Poli, lo conosce lei Poli? No. No, ma che c'è? Non lo conosce. Mercù, non conosce Mercù. Manco Zagrebetti. Si faccia accompagnare da Mercù, da Andro Mercù. Mercù impazzisce se vede Milena qua, Malena, non so come si chiama. Malena. Impazzisce Mercù l'idea di Malena. Scusi, a lei le donne piacciono? Sì. Cioè, andresti pure con le donne, insomma? Anche. Sì, senza problemi. Sei già, sì, stata, sì. Sei già stata con le donne? Sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Normale, Varenzo, normale. Vabbè, questo normale. Sono fatti suoi. Normale, è stata con le donne, uomini, con i trans pure, pure con i trans. No, con i trans no, però ognuno ha la propria sessualità rispettabilissima. Non c'è niente di male. La tua ci mancherebbe altro. Cioè, tu sei bisessuale? Sì. Sì, diamo questa informazione pure alla madre. Sì. Tua madre lo sa che sei bisex o no? Non lo sa, forse. Diamo no, questa... Non lo sa, benissimo. Ma facciamo, diamo questa informazione. Signora, come dire, no? Signora, un'altra, come si chiama? Un'altra signora gioia. Diamole signora Mastromarino, sua figlia è bisex. Vabbè, ma questo... Vabbè, ma questo... scusa, è bisex e vuoi sta per intraprendere me è una cosa che va bene, figuriamoci, carità, non giudico. È l'altra professione che secondo me lascia un po' interdetti, però perché vabbè, voi dite che è normale. Una professione come le altre, dai. Va bene, Malena, ti saluto, un abbraccio, mi raccomando, un bacione, mi raccomando, buon non mollare, non dare retta ai moralisti, non da, avanti tutta, avanti tutta, è un mestiere con... dentro tutta pure, dentro tutta, sì, dentro tutto, oltre dentro tutta è difficile, dentro tutto è pure simpatico quando ci si mette, signora Malena. Malena, mi raccomando, non dare retta a quella. Non dare retta, sì, devi scioglierti un po' di più. Non dare retta a quelli che aveva gioia del collo e ti diranno: no, che schifo. No. Porno star è un mestiere come un altro. È come fare il professore universitario, è come fare il conduttore radiofonico, è come fare il giornalista, è come fare il conduttore in TV come Parenzo. Esattamente, no, con Siffredi, anche senza Siffredi, uguale, capito? Chiaro? Okay. Non ti fare condizionare da Parenzo che dice: no, mia figlia morirei. Mia figlia. Io morirei. Io no. E non accadrà. Non accadrà. Potrebbe accadere, che ne sai? Speriamo di no. Ciao. Ciao, un bacio. Ciao, ciao, ciao. Ah. Non capisco questo tuo moralismo, francamente. Moralismo, dico la verità, dico quello che pensano secondo me il 90% ragazzi, delle deve, persone ma senzienti. Ma se deve andare così, vada così. Se deve andare ho così. Ho capito, ma dire che uno non ci sta male. Ma io ci ho detto, ma se va così, voglio dire che diseredo nessuno. Però ci rimarrei malissimo, starei male, verrei ricoverato all'ospedale, viverebbe un infarto, ma sicuramente farei un coccolone, prenderebbe un coccolone, ma sicuro. Va bene ragazzi, Alessandro da Siracusa, vai. Sì, buonasera, torniamo con i piedi per terra. Ma che con i piedi per terra? Qui siamo andati in alto, cioè altro che piedi per terra. Volevo chiedere gente che cosa, sta nel PD, nell'Assemblea Nazionale PD e poi Assemblea Nazionale e poi fa i film porno straordinari. Interessante. Senta, una cosa soltanto per Parenzo, che io sentivo dire che secondo lui bisognava intervenire in soccorso riguardo a questa vicenda che è successa nella metropolitana di Roma. Sì, intervenire in qualche modo, non solo magari fisicamente, magari urlando, dicendo aiuto, qui urlando, si stanno menando. Mi scusi, sì. Applichiamo un po' di senso pratico. Sì. Lei lo sa che è stato arrestato il terzo aggressore? Sì, sì, certo. Lo sa che per il terzo aggressore è scattata lì una certa imputazione? Sì. Sì, e quindi? Oh, io forse ho sentito male, pare che sia stato tentato omicidio. Sì, dunque? E davanti a uno che vuole uccidere, lei vuole intervenire dicendo state buoni ho fratelli. Detto in qualche modo, se ci sono altre persone, se sono 10 persone scusi, in un vagone e 3 aggressori, in 10 contro 3 qualcosa si può fare? Oppure fermare la metropolitana, telefonare, gridare, dire aiuto, aiuto, qui sta accadendo qualcosa, correte, insomma fare qualcosa. Non mi sono raccolto, se io devo intervenire a difendere uno che rischia la morte, deve intervenire con la stessa misura. E allora a un certo punto lei per autorizza una legittima difesa, in questo caso estrema. No, perché poi dice no, poi bisogna processare le persone se fanno un eccesso di intervento, eccetera. Ma ragazzi, ma decidiamoci, ma di che state parlando? No, allora, scusi, se io sento trasmissioni dove si dice no alla legittima difesa per chi ti entra in casa, figurati se io per strada devo andare a intervenire in difesa di uno che sta per essere ucciso. Bravo, devo uccidere. Bravo. Devo uccidere. Sì, deve essere allora pronto a uccidere. Devi essere pronto allora, a uccidere. E allora, no, io voglio arrivare alla conclusione che quello che mi mette più paura non è l'aggressione del demento o del balordo, ma l'idiozia dell'utopista che mi impedisce di difendere e che devo difendere dove cedere. Ragazzi, il criminale è pericoloso e il pericoloso va preso tale. Sì, vabbè, quindi, quello d'accordo. Con signor Parenzo, lei si è autosmentito. Smettiamolo con questi discorsi proprio. Ma assolutamente, anzi il contrario. Sì, assolutamente sì, perché tu sei dementi. Sei esattamente il contrario. Sei contro. Allora si vada a studiare la legittima difesa e lo stato di necessità. 54 codice cosa? Penale, scusi, 52 sta, codice stiamo penale, dicendo delle cose completamente diverse perché allora, non ha il cervello collegato, evidentemente. Che uno la sta sfasciando a legnate. Al punto ho che detto che ci sono diversi modi. Che io posso dire, per favore, non fate ho cattivi, detto fate che buoni. Ci sono tanti modi per intervenire in base anche alle proprie ma lei capacità. La e posso... ma lei sì, la... certo, ma... certo che la prendo. Ma a Roma la prendo a Milano sempre, a Roma ogni tanto. Questa gente. Ma mi scusi, ma mi è capitato una volta a tarda sera a Milano, non a Roma, ha ragione di avere paura per la presenza di brutti ceffi nella linea verde, quella che attraversa Loreto, stazione centrale. Lei sarebbe il primo che prenderebbe e scapperebbe via dall'altra porta della metropolitana. Mi allontanerei, ma chiamerei qualcuno. Col mio cellulare chiamerei la polizia immediatamente. Ma cosa c'entra? Cioè non starei inerme a scappare. Che a un certo punto svegliamoci dal torpore. Ciao Alessandro, ciao. Alessandro. Cruciani, ma sei proprio un coglione, sei. La Zanzara. Allora, io direi di andare subito a Milano da Riccardo, vai. Riccardo, dimmi. Cruciani, porca miseria con sta malena che hai combinato. Mamma che è successo? Mia, ti sentivo allupato, bro. Ma ce l'hai una fidanzata, una cosa? Ma non ti preoccupare. Ma forse si masturberà in diretta, che ne so. No, non ho interesse a questo. Madonna mia, vado al falegname, fatti la, non lo so, vedi tu, madonna mia, che brutto segnale che hai lanciato. Oh, che brutto segnale che ho lanciato. L'unico un attimino. L'unico arrapato mi sembra che sei tu, perché hai chiamato per questa cosa. L'unico arrapato sicuramente eri tu. Ma brutta proprio, brutta. Che tu ti faccia dire quello che fa, quello che ha fatto, però ti sentivo proprio diverso, io ti seguo sempre, però sì. Ma ce l'hai una ragazza, Cruciani. Non ti preoccupare, Riccardo. Certo. Sto contento per te, va, certo. Sì. Ciao amico. Ciao. Vittorio Monza, vai. Vittorio, dimmi. Quella, ciao Cruciani, io volevo dire che tutto sommato la penso come Marenza, come, sì, Marenzo. Come Marenzo? Sì, Marenzo non è un brutto cognome. Marenzo, sì, però prego, dica. Riguardo la storia della risa, a me è capitato negli Stati Uniti di vedere una situazione di violenza. Io sommato sono intervenuto e Spatino è stato contento così. Ci sono diverse esperienze, ma quello che ha detto prima l'ascoltatore non è sbagliato. Cioè... Come dire, nel senso, ero lì, c'era sta ragazza, l'hanno buttata fuori dalla macchina, l'ho tirata su, l'ho portata a casa, lei era contenta. Ma non mi sembra che sei intervenuta, l'hai portata semplicemente, cioè hai preso una ragazza e l'hai portata via. Non è che sei intervenuta. Soccorso. Ma ho capito, ma quelle non si sta parlando di soccorso, ragazzi. Ma tanto ha fatto qualcosa, non è che si è fatto i fatti suoi. Ero in Texas, lì ti sparano, non ti menano. Come dire, ho fatto quel che devo fare, alla fine ero contento. Vittorio, pensa al bambino, va, che sento un bambino in sottofondo, va. Chi è tuo figlio? Chi è? Ciao, ciao. Alessio, Roma, vai. Alessio. Ciao, Cruciani. Dimmi. Ammazza che palle comunque con questa storia della metropolitana, mamma mia. La gente chiama, che devo fare io? Che coglioni, intervengo, non intervengo. Tutti supereroi. Comunque noi telefonavamo perché siamo in tre. Il primo è Parenzo. Informazioni supereroi. Su Spotty Potty o come si chiama? È un semplice sgabello che tu metti sotto i piedi, vai a vedere Spotty Potty e caghi meglio, cioè caghi perché, in maniera più... sto in macchina con due ragazze e non credevano al fatto che potessi cagare meglio con uno Spotty Potty. Spotty Potty, passami le ragazze un attimo, Alessio. Eccole subito. Vai. Ciao Cruciani! Ciao. Allora, ecco. Lo Spotty Potty vale anche per le donne, praticamente una specie per di. Le donne anche. Scusa, riferisco perché non possiamo stare in via voce, quindi brava, molto devo bene. Riferire. Molto bene, sì. Riferisci questo, vale anche per le donne, è una specie di sgabello. Adesso lascia perdere Spotty Potty, che è un prodotto commerciale, non facciamo troppa pubblicità. Tu è uno sgabello e praticamente si riproduce la posizione quasi della turca, in modo che l'evacuazione delle feci avviene in maniera molto più fluida, perché è molto importante questa cosa qui, molto molto importante, capito? Perfetto. Ed è un prodotto, praticamente uno sgabellino, ma basta che vai a vedere su internet e sai tutto. Quanti anni hai tu? Sì. 26. Sei anche un po' lesbica? No, ma perché? No, assolutamente no. Sei eterosessuale, basta. Perché che male proprio, c'è? Ma perché devi chiedere a un'ascoltatrice ma è importante perché si va verso un mondo di bisessualità. Ma con tutto il rispetto per le lesbiche, ci mancherebbe, però etero. etero tutta la adesso vita. Adesso si etero, va verso etero. Un mondo. Ma che sentenze sono? Cioè, una donna che non è andata ancora con un'altra donna, diciamo che manca qualcosa. Tu non ti manca qualcosa? Come ti chiami, scusa, tu? Ludovica, no. Non ti manca qualcosa? Cioè, l'idea di andare con un'altra donna non ti attira? No, ad oggi no. Però ti manca qualcosa, ti posso assicurare, ti manca qualcosa. Cioè, bene, Cruciani, terrò a mente il tuo consiglio. Ecco, tieni a mente questo consiglio. Tieni a mente questo consiglio. Mettici. Cruciani, un'ultima cosa. Aspetta, ti ripasso Alessio. Dimmi, Alessio, dimmi. Un'ultima cosa. Ma mi chiami di nuovo il paesino dei mafiosi? Il paesino, beh, non è che si può fare. Non so se lì. Non è che ogni giorno si possono fare le stesse cose, però. Perché... Sì, ti prego, Parenzo che c'ha paura, è troppo bello. Ma di paura di che? Paura, paura di che? C'ha paura di quelli. Ah, dell'andrangheta, dici? C'ha paura dell'andrangheta, Parenzo. Sa com'è? Sa come non è esattamente l'associazione pia di aiuto ai poveri, è l'andrangheta, amico mio, cioè una struttura complessa. Ciao Parenzo, date la svegliata. JP Morgan Asset Management vi presenta La Zanzara. Crux, prova a chiedere a quegli spaccapalle degli animalisti cosa devo fare con le tarme nell'armadio. Se conoscono un ammaestratore, bah, un consiglio. Tipi da Zanzara, Elena, un mito, senti. Tipi da Zanzara. Cosa desideri da noi, cara Elena, questa sera? Cosa desidero? Che quello prima parlava di Mussolini, ha fatto del bene, questi ci ammazzano più di Mussolini, ci stanno ammazzando tutti i governanti, i magnacci perché sono tanti. Nonnina mia, mi ascolti, adesso il tempo è scaduto, ma mi sono rotto i coglioni. Cara la mia nonnina, mi dia retta. Prenda il plaid, se lo metta, si metta la flebo, mangi la sua minestrina e si riguardi l'Istituto Luce. E si riguardi i comizi del Duce a casa sua, ma non romba le scatole alla radio, capito? Mangi la minestrina, la minestrina capastina, il semolino, così. Quando c'era il Duce, le cose funzionavano. Quando c'era il Duce, le cose funzionavano. Metta la copertina, nonni. Metta la copertina. Torni a letto, nonni. Mamma mia, questa è la numero uno. Scusa, ma vaffanculo, mammicchi, ma sarai tu. Ma scusa, Elena, nonnina, quanti anni hai? Mi dispiace per Cruciani. No, ecco, perché ma che c'entro io adesso? Io voglio bene. Il bacio della morte gli ha dato l'autorevolezza. Il bacio della morte. Scusami bacio, Elena, della morte. Elena, l'amica mia, che ne pensi di Parenzo? Tappo? Perché gli hai detto tappo? Perché gli hai detto la nonnina tappo? Fascistella. Perché gli hai detto tappo? Perché è brutta e tappo. Cioè, sarà bella lei. Torna a fare la calzetta, nonnina, su, ma di che si occupa, dai, ma torna a fare la calzetta. Ma chi è lei per telefonare a una radio anziché starsene a mangiare il semolino a casa? Che fa? Che dice? Ma mangiatelo tu, mamma mia. Ma ancora in pensione a spese mista. Ma lo mandi a fare in culo, Elena, lo mandi a fare in culo. Ma prende la pensione lei, signora. Ma in culo, culo, culo. Ah, nonnina. Parenzo. Eccolo. Te educata. Voglio bene, anche se mi hai detto nonnina. Te voglio tanto bene. La nonnina della Repubblica Sociale, come la devo chiamare? Niente. Ciao, voglio Elena. Un po' di vita allegra. Ciao Elena, ciao. Vabbè. Tipi da Zanzara. Ogni tanto va richiamata Elena, però, per capire anche come sta. Per capire anche come sta. Sta facendo a casa le prove della marcia su Roma, probabilmente. Sta camminando con il passo dell'oca lì a casa. Però ti ha mandato a fanculo sul serio, ti ha mandato a fanculo. Frega. Allora, ragazzi, qualche giorno fa è scoppiato lo scandalo dei sindacati che coi soldi degli iscritti. I vertici sindacali vanno in crociera. Hanno fatto le crociere in Nord Europa, sono coinvolti in un'inchiesta giudiziaria i vertici della UIL, soprattutto signor Angeletti, signor Barbagallo, Carmelo Barbagallo. La cosa è molto semplice. in crociera con i soldi dei sindacati. C'è un'inchiesta addirittura per appropriazione indebita, non so che cosa. Fermi tutti, chiamiamo Barbagallo, signor Carmelo Barbagallo. Pronto? Dottor Barbagallo? Sì. Buonasera, Cruciani, come sta? Va bene. Allora, com'è sta storia della crociera? Che è successo? Siete andati in vacanza a spese del sindacato? Io ho fiducia nella magistratura. Sono assolutamente convinto che verrà fuori la verità. Sì. E attenzione, perché io per esempio mi passa tutto l'anno a essere ospite in giro. Sono ospite di strutture, sono ospite di categorie, sono ospite anche di controparte. Se vado a Cernobbio, sì, paga. Se sono diciamo Controcommercio, paga Controcommercio. Sì, ma c'è sempre qualcuno che paga, anche quando lei va in giro per conto del sindacato. È sempre sicuramente, però posso dire una cosa? Prego, prego, prego. Come no? Eravamo in bassa stagione. Sì. Il coinvolgimento della cosa della categoria dell'autotrasporto era perché era last minute. Last minute, sì. Perché non potevamo stabilire per tempo certo quando andare. Sì. Giusto. E la cosa che vorrei far notare è sì che al di là se ci crede o non si ci crede, quelle riunioni che si facevano durante l'arco della giornata, non sempre sì dalla mattina alla sera. Perché, in crociera? In crociera, sì, hanno determinato il cambiamento della linea della WIL. Ah, ok, cioè le sono servite, lei dice. Sì, e hanno, posso dirle una cosa? Sì. Se c'è un solo lavoratore che si è sentito ferito di questa cosa, io mi scuso con il lavoratore, perché non era mia intenzione. Io ho partecipato a delle riunioni, chiamiamole sì anomale, sì, e però quando ho potuto determinare la linea della WIL non ce ne sono fatte più. Ah, ho capito, cioè era la gestione precedente che faceva queste cose, che decideva queste crociere. Non ero io il segretario generale, essendo il segretario organizzativo dovevo seguire il segretario generale. Cioè lei ha obbedito in pratica? No, non voglio dire che ho obbedito, perché sennò sembreremmo militari. Però non poteva mettere bocca, diciamo. Ma non le sembrava un po' strano partire in crociera a spese del sindacato? Ecco, non le sembrava strano? Scusi, Barbagallo. Quando ho fatto un congresso dei giornalisti, chi paga? Io non ci vado mai, figuriamoci. Allora, perché non ci va mai? Ma perché non ci va mai? Perché male paga qualcuno? Perché non sopporto i giornalisti. Ah, vabbè, questo è un altro paese. No, però voglio dire, è diversa. Qualsiasi congresso, qualsiasi iniziativa, diciamo. Ho capito, ma questa è anomala. Questa è anomala, questa cosa qua. Non è che uno fa le riunioni in crociera, no? È un po' sì. Le posso un dire po', una un cosa? Po'. Io vorrei far ricordare che dalla conferenza d'organizzazione che abbiamo fatto è nato qualcosa di. La WIL ha cambiato impostazione. Ha cambiato impostazione. Il sottoscritto. Ma perché c'era un clima diverso, si creava, cioè in crociera, che clima si crea, diciamo, tra le persone? Un clima più adatto alla riconciliazione, al colloquio, alla sintesi, no? Come si dice? Allora, noi avevamo un problema. Qual era? Di parlare a lungo di alcune cose. Normalmente sì, dentro il sindacato si parla sempre, ma a volte non si riesce su alcun argomento a trovare la sintesi. Ah, lei dice che praticamente in crociera, essendoci più tempo, uno riesce magari a stare di più insieme. Quello che lasciava il giorno prima lo riprendeva il giorno dopo. Certo, ma, certo. No, scusi, perché chiaro, uno viene da pensare, perché le avete sospese queste cose? Se servono così tanto, perché avete chiuso questa vicenda qua? Ho cercato pure di spiegarlo, perché non mi piaceva, perché soffrivo un po' di mal di mare. Soprattutto mal di mare. Sì, non è buono quello. Potete farlo in montagna, a Cortina, ad esempio, a San Moritz o in altre. Non ci abbiamo pensato. Potete anche non crederci, ma diciamo alcune cose, non dico tutte, sono scaturite pure da quelle. Da quelle crociere là. Senta, ma sua moglie come si trovava in quelle crociere? Male, ho detto. Oppure mi pare che l'abbia scritto pure il Fatto Quotidiano. Cioè, come si trovava? Molto spesso, siccome ha problemi di deambulazione, restava in cabina. Cioè, un dramma praticamente quella. Non voglio ora fare la vittima, No, no, per carità, no, assolutamente. Ma quanto costavano alla fine? Quanto costava al sindacato questa crociera? L'ha capito lei alla fine? Non me ne occupavo, non lo sapevo. Non lo sapeva quanto costava. Sarà qualche migliaio di euro alla fine costava. Sì, perché erano tutto in bassa stagione. Ma beh, certo, si andava a risparmio da questo punto di vista. E comunque lei di fronte a un... Io ho sentito vari lavoratori, no, in questi giorni su questa storia, prima di chiamare lei. E devo dire la verità. Non c'è un lavoratore che mi dice, beh, forse servivano, eccetera. Tutti sono incazzati perché vedono i sindacati, i dirigenti e non solo partire con la crociera. Messa in questi termini hanno perfettamente ragione. Cioè, fu una minchiata, dai. Cioè una, l'ho detto. Una minchiata, dai. Col senno del poi è così. Col senno del poi è così. Va bene, grazie. Salve. Grazie. Saluti, saluti. Salve. La cosa più incredibile è che Barbagallo rivendica ancora che quelle riunioni in crociera servivano. Cioè, sì, siccome sì, non avevano tempo di riunirsi a Roma continuamente, cioè dice a Roma non c'era tempo, eccetera. In crociera ci si vedeva anche il giorno dopo. Cioè, c'era un lavoro fatto il giorno prima e il giorno dopo ci si rivedeva tutti insieme. Incredibile. Ma di che andavate in crociera perché coi soldi dei lavoratori ve ne fottevate, dai. Siete il peggio del peggio, fate schifo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da G-Group, la prima multinazionale italiana del lavoro. Scopri i nostri servizi su ggroup.com. La Zanzara. Eccoci qui, caro Parenzo, abbiamo con noi Flavia Vento, torna alla Zanzara la signora Flavia. Buonasera, Vento. Buonasera, come andiamo? Un trust di cervelli proprio, ma i migliori cervelli convocati, bene, basta, bene. Cervelli, basta. Ma è arrivato, sì. Bene, non c'è male, è arrivato lui, Parenzo, il cervellone. Ho detto, ma infatti cervellone. Voglio confrontarmi con gente più intelligente di me, quello di cerco di dirlo sempre. Il libro di Nietzsche, che si fa una cultura. Di Nietzsche. Nietzsche. Nietzsche, sì. Perché quando l'hai letto, quale libro di Nietzsche, però, quale tra i tanti? Esiste il libro. Verità e menzogna. Verità e menzogna, d'accordo, è l'ultimo libro, è il libro che sto leggendo io adesso. Ecco, leggimi qualche passo. Bene, di verità e menzogna. Verità e menzogna, ottimo. Cara Flavia, ce l'hai davanti? Ce l'hai davanti il libro o no? No, non ce l'ho davanti. Quindi anche lei concorda con quelli che danno l'interpretazione dell'Übermensch, cioè del superuomo, in realtà in quale chiave lei pensa che Nietzsche identificasse? Non entriamo troppo. No, è meglio non entrare nel merito, appunto. Il libro che sto leggendo. Cioè esatto, l'Übermensch, comunque... il superuomo sarebbe oltre l'uomo o il superuomo in senso ma poi nazistoide, cazzo, come vede, salto interpretato? Non vede un uomo da tre anni, ma che ne sa? No, ma io intendo quello di Nietzsche, va bene, poco male. Scusa. Allora mi segui? Ti seguo e hai detto che non scopi da tre anni, però scusami, no, cara Flavia. Ma questa volgarità, scusa, sono cazzo. Questo è il fil rouge, sei diciamo, rimasto, della trasmissione. Che male ormai. C'è? È rimasto... No, che male c'è? Nessun male, per carità. Se sei tranquilla così, se sei, come dire, stabile mentalmente, cioè se non hai problemi a non fare sesso per tre anni, va benissimo. Se uno sta bene, per carità, che male io c'è? Io sto benissimo, guarda. Anzi, ma ho capito, meglio. In questi tre anni bisogna sarà... fare sesso quando si ama uno, non così. Ma adesso questo non però, Flavio, adesso non francamente... Adesso finché bisogna... quando troverò l'uomo della mia vita, mi concederò. Noi siamo... Noi siamo passati da una signora a 30 anni che era nell'Assemblea Nazionale del PD, che ha cominciato la sua carriera di pornostar, a Flavia Vento, subrette, come si può dire, subrette, attrice, eccetera, eccetera, la quale invece improvvisamente dice che da tre anni non fa più sesso. Ora, francamente, io non ci credo in tre anni tu non hai mai avuto contatti con uomini. Cioè, è la verità. Anche un po' di petting, non so come dire. Ma no, niente. Manco il petting. Manco il petting, una limonata. Ma una qual è il problema? Ma no, vabbè, ho capito. In tre anni petting, una slinguazzata. Cioè, è veramente incredibile questa cosa qua. Cioè, no, un bacio. Dei baci l'hai dato. Toccatine, niente. Toccatine, nulla. Nulla, dai, ma dai, ma parliamo di cultura invece di ecco, sì, cultura. Ma e chiamiamo cultura? Giustamente lei, infatti. Ma quale vabbè, cultura? Comunque, dai, andiamo avanti, va. Allora, però, è vero che sei diventata, ti sei avvicinata a Gesù e alla Madonna? Ah, io sto, sì, comunque sto, cioè, sono hai, molto vicina, sì. Hai avviato un percorso religioso, diciamo, no? Beh, un percorso religioso, credo che, credi che sia che una credi. Cosa importante, pregare, credere in qualcosa. Beh, al di là di tutto, no? Sì, d'accordo, ma è vero che ti sei avvicinata, che ne so, anche in maniera forte, cioè sei diventata molto credente, molto religiosa, anche frequentatrice, o no? Sì, io sì, sono andata in varie chiese, a che fare? La Madonna della Rivelazione è molto bella, che sta via Laurentina, la conoscono in pochi. La Madonna della Rivelazione, che fa? Sì. Aspetti la Rivelazione? Che dove è apparsa la Madonna nel 1967. E che vai a fare? La preghi, ti metti lì e preghi? Bisogna pregare, tu non credi in niente? No, io non credo in nulla. No, lui non crede in niente. Ateo. Nulla. Ateo totale. Non solo nella pornografia e nelle pornostar, credo. Praticamente. No, dai, e nel fare la pipì nei lavandini. Scusate. Le faccio io il decalo di quello in cui crede Cruciani. Fare la pipì nei lavandini. No, quello no. Dare quello istruzioni su come si fa la pipì e la popù. Tutto sulla questione sessuale, qualunque cosa lei immagini, ragazzi, lui ma, va ma, oltre. Scusate, ma non dobbiamo parlare della Raggi. No, io sì, si figuri anche della Raggi, anche della Raggi. Io voglio capire una cosa, cosa tu come, della quando Raggi, vai in bagno, qui, come ti metti sulla tazza del cesso? Ecco, no, scusa, è un argomento interessante questo qua. Come ti metti sulla tazza? Non rispondo a queste domande. Ma perché? No, ma ti metti in maniera normale oppure Cruciani, utilizzi uno sgabello? Utilizzi guardi, uno chiamo Marzullo. Utilizzi uno sgabello, ma Marzullo che c'è, mica parla di queste cose. Utilizzi uno sgabello per metterti Marzullo fa varie domande, no, anzi, non queste, guardi, lo queste di vastità, non so. No, ma allora, d'accordo, vabbè, che ti devo dire? Cioè, cambiamo discorsi. No, non si possono cambiare discorsi qui non c'è la. Comunque, vabbè, la Raggi ti piace o non ti piace? Guarda, molto. Ti piace molto la Raggi? All'inizio non mi piaceva, però una che finalmente dice una cosa seria, non cioè, indebitiamo. Che cosa detto? A Roma è piena di debiti, pensiamo a alle fare Olimpiadi, altro. Alle Olimpiadi, anche tu. Mi dispiace per Malagò, però. Tuo amico Malagò, sì, ti dispiace per Malagò, però è giusto così, no? D'altra parte siamo d'accordo su questa cosa qua, caro David. Io no, io per nulla. No, a me non no, me ne frega niente. Io volevo le Olimpiadi, ma non mi interessa niente. No. No, no, ma comunque, secondo me tu faresti meglio della Raggi, Flavia. Cioè, allo stesso posto forse faresti meglio. Lo so, ma forse io non mi posso candidare. Guarda, mi candiderò tra qualche decennio. Ecco, meglio. Ma più è vero avanti, che sei dimagrita molto? È vero che sei molto dimagrita? Sono dimagrita, sono tornata in forma. E quanto sei dimagrita? Quanto hai perso? 12 kg, ma perché ero intolleranza al glutine. Ecco, dovrei lanciare una campagna che uno deve farsi le analisi, perché questo glutine, insomma... Certo, ti gonfia. No, vabbè. No, non bisogna mangiare pane e pasta, purtroppo. Ma che non bisogna mangiare pane non e bisogna, pasta? Adesso. Ognuno fa quello che vuole, cioè adesso non bisogna ma mangiare sì, pane vabbè, e pasta. Però, cioè, ecco, se vuoi dimagrire, ma se già sei magro, Cruciani. Sì, ma ok, ma non è che, ma voglio dire, ma non è voi che una cosa strana, dici, bisogna non mangiare pane e pasta. Cioè, non mi pare una cosa così strana, dice, per dimagrire non bisogna mangiare pane e pasta. Vabbè, d'accordo, ma chi se... Vabbè, dato no, che... no, ma io ero proprio intollerante al glutine, ero allergica, che sì, è diverso, quindi mi gonfiavo. Ma non ti manca un po' il sesso? Cioè, non ti manca un po'... Cruciani, no, devo trovare un uomo che mi faccia impazzire, per ora all'orizzonte non lo vedo. Ma è difficile, cioè, che uno ti fa... nessuno, non mi accontento. Sì, d'accordo, ecco. Però Flavia, scusami, è difficile che uno ti faccia impazzire, uno poi magari ti fa impazzire dopo, intanto fatela una scopatina, no? Così, tanto per... Beh, cioè... adesso... No, non ti preoccupare, guarda. Vabbè, ma per carità, ma io tanto non è che voglio essere io quello, per cui non ho problemi, te lo chiedo per una... te lo chiedo anche per... ti sono vicina da questo punto di vista, cioè è una situazione complicata, difficile. Senti, oggi è una giornata particolare, io da te vorrei una cosa, un regalo, cioè dovresti fare gli auguri a Totti. Ecco perché mi hai chiamato. No, veramente l'avevo chiamato ieri, che non c'entra niente. Cioè, non c'entra... Beh, grazie. Beh, tanti auguri, Francesco Totti, che oggi compie 40 anni. Compie no? 40 anni, sì. Hai letto l'intervista alla signora Ila Di Brasi sulla Gazzetta non dello Sport? Non ho letto perché oggi sono andata al mare, caro. Era ieri l'intervista. A pescare le telline, perché oramai sono diventata una pescatrice. Adoro pescare. Adoro cioè, pescare. Non lavora, non fa niente, va a pescare. No, bene, in questa intervista Ilaria... Ah, ma non lavoro, c'è la crisi. In questa intervista Ilaria ha detto che non ce l'ha con te, che all'epoca, siccome ha ripercorso un po' di cose, che all'epoca... Vabbè, dai, ancora. E vabbè, ho capito, mica ho tirato fuori io sto discorso, ha tirato fuori lei. Ma mica ho detto io, cioè se vai a leggere questo... Vabbè, comunque, acqua passata. Speriamo comunque che, insomma, succederà qualcosa di bello, no? Ma tra chi? Tra chi? Come? No, tra me e chi verrà. Ah, ma in generale dici? Ah, in generale. Pensavo parlasse ai Totti ancora. Anch'io prima pensavo, le polemiche. Sembrava, appunto, non è che potevi riaprire le polemiche, no? Cioè, ma mettiamo una fine a queste polemiche, no? Mettiamo fine a queste polemiche. Ma No, dai, perché la signora perché la signora Blasi ha detto anche che a te ti hanno promesso mari e monti. Così ha detto, ma vai a leggere l'intervista, mica l'ho detta io. Ha fatto un'intervista che ha fatto scoprire. Ma non mi interessa parlare ancora di queste cose. Non ti interessa. Non ti interessa. Di Totti non ti interessa più. Però fagli gli auguri. Però fagli gli auguri. Senti, che hai fatto quest'estate? No, ma fagli gli auguri però. Però fagli gli auguri. Ma glielo fatti. Oh, tanti auguri Francesco, tanti auguri. La sua giornata come si sviluppa in genere, signora Vento? Come che... La mia giornata, sì, ma, esatto. Scusate, ma sì. Questa è una radio importante. È la tua giornata. Sì, no, è per comprendere quanto a che ora prende il via la sua giornata, come si dipana, quali sono i suoi impegni quotidiani, i suoi piccoli stress. Mi pare francamente che di capire non faccia un cazzo di... Esattamente. Che lei... Io viva capire. La giornata, viva allora, la giornata. Carpe diem, carpe diem, carpe diem. Ti abbraccio. Comunque, ciao, ciao. Dai, ciao. Sentiamoci presto. Ciao, ma figuriamoci, ma anche no. Per carità, assolutamente. Ma anche no. Anche no. Ciao, ma anche ciao. No, ma a cosa buona serve sentirla? Ciao, ciao. Arrivederci, ciao. Signora, arrivederci. Ciao. Vabbè, ragazzi, andiamo a Roma da Michele, vai. Forza. Oh, Michele. Michele. Francesco, Firenze, vai. Però è Michele, qui io credo, credo io. Vai, no, Francesco, vai, dimmi. E qui bisogna faccia resta. Questa malena, ragazzi, che figa, Ma lo senti tu dalla voce, che figa, che io stasera vado sul computer e mi vado a cercare tutte le foto, tutte le non cose. Non so se ci sono, perché è una nuova, una novizia da questo punto di vista. È un arrapato questo qui. No, ma tutto, che c'è di male ad essere arrapato? Che c'è di male ad essere arrapato? Non c'è nulla di male, ma porca la puttana, ma possibile? Ma uno è arrapato? Oddio, è arrapato! No, ma c'è cerca di una foto di donna! C'è di strano che c'è di strano che lo dice alla radio, ma così dice io sono arrapato. Ma ragazzi, ma dico assolutamente. Cioè non c'è più l'intimità, il tenersi le cose per sé, diventa tutta una porcheria. Scusa, ma se questo posto è specializzato nel non tenersi le cose per sé. Se lo scopri. No, ma no, io lo rimarco ogni giorno, ma mi sembra che basito dall'animo Francesco, umano allora... da questa gente. No, ma... dicevo, dai, no, è un prezzo incredibile. Dai. Io a volte lo rispetto per fare che cosa che dice, purtroppo. Sì, però è troppo bigotto, dai. Bigottissimo. Nella zona mia c'è Montecatini, non so se conoscete, c'è pieno di puttane. Vabbè, ma che c'entra, gente... è pieno di puttane? Non solo quello, no, c'è Montecatini. La gente che va a puttane è gente normale come me, che io ci vado tranquillamente, non c'è problema. Ci vai a puttane a Montecatini, vai? Vai in Austria. Vai in Austria anche tu. Lei è sposato, fidanzato? No, io no. Mai stato, ho avuto storie, però... Ma no, ogni tanto vai a puttane in Austria? Sì, no, ma anche spesso. Ma che parti apposta da Firenze per andare in Austria a puttane? Sì, siamo con amici, si va, io sono tipo un club nostro. Che club? Di fiducia? WhatsApp, sì. Abbiamo tutto... Siamo, tutto siamo di fiducia, gente, insomma. No, ma gente minuziosa. Cioè, che vuol dire un club di WhatsApp? Avete un po' di amici, come direbbe, puttanieri su WhatsApp, che vi riunite e decidete... Di puttanieri. Ma non c'è niente di male. Puttanieri che andiamo là e... gustiamo tutto queste belle, insomma, queste ragazze che... Ma io voglio dire una cosa, no? Dicevo prima di Montecatini, no, perché c'è anche una zona dove ci sono solo trans, è in una zona industriale, e sì. Normalmente nella zona industriale la notte non c'è neanche una macchina, non c'è nessuno, c'è una desolazione. Allora lì c'è la fila, e la fila, ma non è di macchine normali come la gente tranquilla, padre di famiglia che vanno puttane normali. Tutta gente BMW, macchinoni, perché la gente bigotta, la gente del moralismo come Parenzo a trans. Ma questo è... E vabbè, ma ognuno fa, la pensa come vuole. Magari però torna a casa... Ma tu vai pure a trans, Francesco? No, per carità. Ho degli amici che sono simpatizzanti. Simpatizzanti, della cultori della materia, come si dice, sì, no? Sì, ma piace proprio di più, è una cosa in più. Ma è normale perché c'è il gusto normale, della diversità, anche questo, certo. C'è il gusto, diciamo, uno dopo aver provato tutto e dice proviamo pure i trans, no? Perché la gente cerca sempre più emozioni, cerca sempre emozioni nuove, Parenzo, cioè cerca sempre soluzioni. Sì, ma tanti modi per trovare... Cerca sempre soluzioni sessuali nuove e dunque dopo un po' dice vabbè proviamo pure i trans, cioè non c'è niente di strano. Anzi, devo dirti la verità, caro Parenzo, io credo che istituirò una specie di super premio premio Trans Zanzara, cioè il trans più bello d'Italia. Sì, cioè questo il... ci può stare, è bellissimo, questo va bene. Il trans più intelligente, non solo più bello, diciamo il trans più brillante. Potessi trovare, guarda, un trans per il sì e uno per il no. Bellino. Questo potrebbe questo essere buono, interessante, questo capito? Sì, questo allora questo potrebbe avere un senso, perché ad esempio hai questo confronto di due di cervelli, di che non sì. è detto che non siamo cervelli, perché non no, è che appunto, perché stai esatto. dicendo che i trans sono tutti stupidi? No, ho detto esattamente il contrario, esatto. Trovare un trans per il sì e uno per il no, cioè lo vedi il trans... che ogni tanto ti porto sulla retta via? No, voglio dire, se per forza di questo bisogna parlare, almeno gli diamo no, per una, forza. Un sentiero, no, no, per un guardrail. No, per forza di questo. Un trans a favore del sì e un trans a favore del ci no. Ci sarà in tutta Italia. Sì, un trans, caspita. Voglio, però, un trans che magari faccia anche il mestiere, no? O no? Vabbè, adesso questo dici, no. Non lo vabbè, so. Bruno da Bologna, dai. Sarà difficile. Bruno, Bologna. Pronto? Dimmi, Bruno, dimmi. Sì, ciao. Ma niente, guarda, un commento qua. No, però, amico mio, perché chiami? Non si sente un cazzo, scusami, dai. No, io... Mi senti? No, c'hai qualcosa male, di acceso. Male, male, male, male, male. No, nulla di acceso. Telefono in mano e basta. Telefono malissimo, in mano non c'hai un cazzo, tu, no, il telefono, perché non si sente nulla. Vabbè, ragazzi, dai, richiama domani, Bruno, ti richiamiamo noi, dai. A domani, ciao. Ragazzi, ciao. Cruciani, ma va suca! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Ragione, lo dica, casa, lo, dica lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.